Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero conosciuto, numero quale? Perché se il numero parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano. Se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud, non è ma che cosa fa? Non fate niente al sud e risponde con volgarità. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come se vada a lavorare lei? Vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Il coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi non siamo dalla parte del coronavirus quando diciamo di riaprire, pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più, che ci avrebbe detto, se avesse potuto parlare, ripartite anche per noi. Per noi. Per noi. Per noi. Cosa? No, è possibilissimo. Engr, vai a dormire Salvini, Guglielmo o Salvini facci i bocchini. Noi, Alessandro I, al secolo Alessandro Meluzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, antico orientale. Matteo! Da casa Parenzo, David e Natalia Zevi avvengono anche cose belle nella vita. Nicolas mi dice la canna da pesca infilala nel culo. L'hanno detto alla zanzara perché dicono cose inesatte. Parenzo dice sempre cose intelligenti, lo attaccano sempre, ma dice sempre cose molto intelligenti, è vero. Un'avvertenza, ho un carattere ferroso, ho un carattere dinamico, ho un carattere di bende. A me non mi servono i consigli. Io potevo essere stipendiata. Eccolo! In diretta da Via Monterosa, un bunker per ora inespugnato, e lo dico con, come dire, mettetevi tutti voi, toccate ferro, mano, bravo la corte, mano a pelle, inespugnato per ora dal virus. Non dico nulla, ma non abbiamo notizie qui, non abbiamo notizie. Adesso che l'ho detto, avverrà una tregenda totale, applauso, grazie. Dai, è che oggi i dati di Milano sono buoni, amico mio, sono buoni! Non dico niente, non voglio dire niente, pure lo dico, sono buoni anche quelli della Lombardia dove si combatte. David Parenzo dal bunker! In via, lo sai che una volta lo voglio dire, ti giuro, voglio le camionette del Mossad davanti a casa tua. Sarebbe bellissimo, meraviglioso. Tu immagina solo le camionette davanti casa tua con le le camionette davanti a casa tua con qualcuno che ti rompe i coglioni e con i signori in segreto del Mossad, no, con la stella di David, qui con la stella di David. Applausi, applausi. Buonasera cari amici, noi sì, Parenzo III, Parenzo III della chiesa autocefala della Zanzara di rito scozzese. Vi salutiamo dal bunker del quartiere Piati. Noi Parenzo II della chiesa autocefala della chiesa. Che cazzo te ne frega te? Che cazzo te ne frega? Gliel'hai chiesto a Meluzzi che è il numero, il zero. Lui è Alessandro I. Gli hai chiesto perché Alessandro I? No, perché a me lo chiedi? Io sono Parenzo II. Parenzo II della chiesa autocefala della Zanzara. E andate immediatamente tutti quanti voi a fare il culo. Ecco, chiesa autocefala. Ma dai, primate. Ho dimenticato sì, la parola primate. Però non ti fissare, scusa, su questa primate. Cosa qua, non ti fissare. No, non ti io fissare. Vado ai matti. Vado ai matti perché non gli hai ma detto nulla quando lui ha detto che è primate della chiesa autocefala Alessandro I. Se auto uno così andrebbe preso e mandato ai servizi sociali. Non, per tutto. Dai, ragazzi. Questa è a casa tua, stanno citofonando a casa tua. Stanno citofonando a casa tua. Mi piace scopare, mi piace i cazzi, mi piace che vabbè, mi sbattono questo... i cazzi in faccia, mi piace prendere i cazzi e vabbè, io mi piace questo... godere, mi piace che io lavoravo su un tavolino vabbè, e mi prendevano. È stronzo la corte. Questo sì. Basta direi cazzo. Questo, grazie. Non l'ho messo io, è la corte che l'ha messo, no io. Basta direi. Ragazzi, allora se tu, caro Parenzo, sei dalla parte dei baristi e tu non sei dalla parte dei baristi, sei come al solito dalla parte dei banchieri, ti piace molto Bruxelles, ti piace molto, no, ti piace molto la burocrazia europea, no, ti piace non molto, mi piace la burocrazia, ti piace molto, l'Europa, no, ti piace europea, la burocrazia, non la burocrazia, ti piacciono i tavoli all'aperto però privati, ti piacciono le tavolate all'aperto però nelle case private con ma terrazzo, no, ma io ti non ma ti io piacciono ti i tavolini, i piccoli tavolini all'aperto dei baristi, ma io andavo baristi sempre italiani. A Montmartre. Ma no. Che dici? Io andavo sempre a Parigi a Montmartre. Ma che cazzo bellissimo c'entra Montmartre? Dai, che era bello, i tavolini degli artisti. Allora, Montmartre, se tu bellissimo. Sei dalla parte dei baristi, dovresti sì, dire sempre, la sempre. Presidente della regione Calabria, la signora Santelli, che vuole con pochissimi contagi riaprire da subito i tavolini all'aperto dei bar. Tu dovresti dire sì, ha ragione, invece no. Pura propaganda, ma sono gli stessi baristi di calabresi che non hanno aperto, infatti. Sono calma, gli stessi. Calma, vai, calma. Devi leggere tutte le notizie, tutte devi leggere, non devi fare come Alessandro I, primate della chiesa autocefala, autoproclamato Sibope. Devi leggere tutto l'articolo, che le notizie dicono che quella vuole fare questo, i baristi gli hanno detto picche. E invece no, lui è contro i baristi, è incredibile. E baristi no, italiani, dovete sapere tanto. Che Parenzo è contro la riapertura. Ma è contro amici, la riapertura. Io sarò il primo no, a venire no, a mangiare Parenzo i secondo, nei vostri Parenzo bar, secondo, Parenzo secondo Parenzo, è contro la riapertura però, dei bar. No, no, sei, no, no, incredibile. No. Parenzo II della chiesa primate della chiesa autocefala, devi dire tutto. Della zanzara. Primate della chiesa autocefala della Zanzara. Ma che scherziamo? Noi. Alessandro I. Senti qua. Ragazzi, no, comunque, avanti. È stata attaccata. Dopo, è stata attaccata una frase di Renzi. Non so se ce l'abbiamo, quella che abbiamo mandato prima in copertina. Sì, la corte. È abbastanza incredibile. Allora, Renzi dice: io ti posso dire una cosa. Ho sentito il discorso di Renzi. Se uno prescinde da Renzi e dal suo carattere, da quello che è stato, ma in da nome quello... anche i morti ti giuro, di Bergamo chiedono aspetta, di riaprire ti insomma, giuro mi ragazzi lo dico, la dico grossa qui, so che molti di voi che ci ascoltate non siete certamente renziani, ma a me non me ne frega niente di queste etichette. Se ma uno non c'entra quello. se uno avesse sentito oggi il discorso di Renzi al Senato, gli italiani avessero sentito e molti magari lo hanno anche ascoltato. Sì, tutti noi eravamo davanti al tutti televisore. Tutti noi, tu, la gente non gliene frega un cazzo del discorso sulla al Senato. Dei discorsi al sulla Senato. Sette, tutti. E se non fosse stato Renzi sarebbe stato da sottoscrivere, secondo me, in molte sue parti, con il sangue, chiaro, con il sangue. Forse anche in questo passaggio, che è chiaramente un po' retorico, alcuni dicono, non si può dire che in nome dei morti, i morti ci avrebbero detto dai. Di aprire, ci avrebbero detto. Dai. Ma è una cosa retorica, dai, una cosa retorica. Ma sì, non ho capito. Una ma cosa Renzi, retorica. È stato Renzi, no, lui va all'attacco se è il franciero di Renzi, ma è stato certo. Renzi, dai. Il coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi non siamo dalla parte del coronavirus quando diciamo di riaprire, pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più, che ci avrebbe detto, se avesse potuto parlare, ripartite anche per noi. Questo è oggettivamente un passaggio un passaggio, però un leader politico, adesso lasciamo perdere che Renzi al 3%, il 2%, non lo so, non mi interessa. Si riconosce anche da queste immagini retoriche che usa, no? Si riconosce anche da queste immagini, i morti. Beh, ci avrebbero detto anche loro di riaprire, cioè di andare avanti, non è sbagliato. Lasciate perdere che sia Renzi a dirlo. Perché uno dice Renzi, lo dice, vabbè, Renzi è quello che ha detto una cosa, poi un'altra, voleva ritirarsi dalla politica e poi il referendum, ha fatto casino, è uscito dal PD. Beh, lasciate perdere, ma alla fine ha ragione. Sentite quest'altro passaggio, adesso non vi voglio tediare molto su Renzi, perché poi c'è Maurizio Paradiso, ragazzi, che oggi ha regalato delle gioie incredibili. Che ha fatto? Oggi, mi so, ieri in realtà, credo che sia una cosa avvenuta ieri, non oggi. Oggi ho ricevuto, David, credo 1000 messaggi, guarda, li voglio contare, ma sono quasi 1000 in cui le persone non è che mi mandavano il discorso di Renzi o quello che succede al Senato, che non frega un ma cazzo a nessuno. Ma anche la riflessione di Zagrebeschi, no, di oggi sulla Repubblica, non l'avete? No, l'abbiamo letto. Video di Maurizio Paradiso su tutto. Video che possiamo trasformare in audio, naturalmente, di Maurizio Paradiso che si incazza con una vecchia davanti a un supermercato e gli dice di tutto, perché lei gli ha chiesto il tesserino da disabile perché aveva parcheggiato nella zona disabili. Lei è disabile, però non c'aveva il tesserino. Insomma, vabbè, Maurizio è disabile, non aveva il tesserino e ha insultato la signora anziana. Amico mio, il top assoluto. Però continuiamo con Renzi, arriviamoci piano piano, cioè arriviamoci in un crescendo rossiniano, no? A Maurizio Paradiso. Sì, avviciniamoci. Renzi, non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli ad altri. Lo dico qui perché in quest'aula io rivendico di aver contribuito a creare un altro governo quando un senatore, il senatore Salvini, ha chiesto i pieni poteri. Non li abbiamo negati a lui per darli ad altri. Questa è una cosa molto da porro, molto da porro. Secondo me lui sente molto zior porro. Lei non consente la libertà, ma la riconosce. Lei non consente agli italiani di circolare, ma riconosce la libertà. Poi ci sono dei divieti, cioè dice e non dice. Ragazzi, per me è stato il top. Sia più prudente, la prego, quando parla agli italiani. No. Lei ha detto 11 volte all'attacco. Io l'ho ascoltata con attenzione. Noi consentiamo, nel campo delle libertà costituzionali, il Presidente del Consiglio, come pure un qualsiasi parlamentare, non consente. Perché le libertà costituzionali vengono prima di lei. La libertà costituzionale le permette di essere dove lei. È quella visione della Costituzione octroyée, concessa, tipica dell'Ottocento, che viene richiamata da uno che dice consento ad altri la libertà. Lei non la consente la libertà, lei la riconosce la libertà. Ha sentito, Freccero, pure in francese, pure in francese. Ma cosa vuol dire? Ma che critica è? Tra l'altro, naturalmente, in questa nuova grande inchiesta che verrà su Rai 2 nel prossimo futuro, l'abbiamo appena finita di girare, abbiamo dei documenti incredibili. Siamo stati naturalmente con Paragone, con il professor Savona a Wuhan. E abbiamo naturalmente le prove che quel signore lì che parlava, Renzi, è stato naturalmente in quei laboratori con i francesi. Abbiamo le prove. Naturalmente, dire, molto semplice da dimostrare, naturalmente, molto semplice. Ma scusi, Francesco, come sapete, fa a dire una cosa del genere? Dai, che c'è i tempi contingentati, dai, che poi mi tagli la linea. Noi sappiamo naturalmente che Macron è un grande amico, naturalmente, di Renzi, lo sappiamo. Sappiamo naturalmente che un ex deputato di Renzi, il signor Gozzi, è stato eletto in Francia con Macron. Ma cosa c'entra? Sappiamo cosa anche, c'entra? Naturalmente, che Wuhan, il laboratorio di Wuhan, è stato fatto dai francesi, naturalmente. Ecco allora che per la proprietà transitiva Renzi ha messo il virus a Wuhan. Torna tutto. Cos'è che non torna? Dai, abbiamo naturalmente i francesi, naturalmente Renzi e naturalmente Wuhan. Il laboratorio di Wuhan naturalmente è stato fatto dai francesi e questo è confermato da tutti. Naturalmente. Che c'entra? Dai, che abbiamo fatto l'inchiesta. Dai, un'inchiesta naturalmente dettagliatissima. Grazie. Di cui possiamo già darvi le conclusioni. Wuhan, Renzi, virus. Cosa pazzesca. Grazie a Freccero. Intanto il premier olandese, parlando credo con un camionista, dice che i soldi agli italiani non vanno dati. Io chiamo questo premier olandese Rutto, perché per me un signore che comanda l'Olanda, con tutto il rispetto, il signor Rutto, il premier Rutto, con tutto il rispetto del popolo, non c'entra niente. L'Olanda è una sputacchia. L'Olanda non vale una cippa, un cazzo. Ma come cazzo fai a dire l'Olanda? L'Olanda non vale, non vale una straminchia. Ma è un posto, è chiaro, meraviglioso, con credo dei formaggi che sia stupendi, il 2%, 2% della popolazione, credo, europea, dato che ti piace l'Europa, e l'Olanda non vale un cazzo. Ma poi e non ci tutti devono gli olandesi sono rompe, non lo so, a me la questione dei soldi non mi interessa neppure troppo. Però uno che si mette a chiacchierare, un premier che si mette a chiacchierare con un camionista, Ma poi tu critichi i Salvini perché stava tu lì, disprezzi stava i camionisti lì. No, perché disprezzi io non disprezzo i camionisti, livelli in trasmissione fanno... quando ti servono per loro che fanno contro tanto, di me, loro che fanno tanto i precisi, no, gli olandesi, il rigore contro, no, quelli, quei peracottari degli italiani, poi li si mette a discutere a dire no, soldi agli italiani, no, questo Rutto, signor Rutto, no, rispetto per le cariche istituzionali, rispetto ci vuole. Ik onthoud dit. Life's a bitch. La qualità dell'audio è pessima. Via! Da questo canale. Pochi ma buoni. E sono anche parecchi. Grande Max. Grande Max. Ciao, ciao Rocco, ciao Rocco, ciao. Oh, I'm failing, falling. In a web I'm trapped in calling. Sì, io vedo molto negativo. No, no, no, invece in questo caso oggi, guarda, oggi sono un pizzico, ma poca, poca, ho un pizzico di ottimismo in più, poca. Quella ventata di ottimismo, quella piccola, quel piccolo refolo, piccolissimo, poi tornerò alla depressione, soprattutto torno alla depressione quando? Quanto sei stupido, Davide, tu pensa che nel mio bar io servo una media tra le 350 e le 500 persone quando lavoro poco, in stagione triplico questi numeri in stagione estiva, se io dovessi servire i cappuccini e i caffè fuori dalla porta, ma che cazzo riapro a fare un bar che mi costa l'ira di Dio di affitto, di utenza, di manutenzione, di operai che non posso licenziare, servendo un cappuccino alla volta. Io non è che lavoro un decimo, io lavoro un centesimo di quello che lavoravo, non capisci niente. Sei un coglione, Parenzo. Sono un barista, in sicurezza, baristi. Che ci metto il tuo culo, stronzo. No, ma mica ha detto Rivergo, hai montato arte, tutto, io mica ho detto che non devono aprire, tutt'altro. Cioè, tutt'altro. Il terrazzo di Parenzo sì e i terrazzini dei baristi no. Questo è il punto, ragazzi. Ma baristi di tutta Italia. Ma non ho mai lo avete qui, una cosa simile, lo avete qui davanti. Colui che dice prudenza, bene, ma non... prudenza, no, ma le regioni sbagliano, bisogna aspettare. Ti ho detto che sei il lacchè di Brusaferro, sei il capo baristi, di Brusaferro. Ma guarda, incredibile. Gli stessi baristi calabresi hanno detto picche alla loro presidente. Per ora è ovvio che devono aprire, è ovvio che devono aprire. Devono aprire le pizze al taglio, anche soprattutto taglio i baristi, adesso. Le pizze al taglio, le rosticerie sono già aperte. Ma i baristi e le pizze al taglio. Io voglio la pizza al taglio. Pizza i negozi che vendono la pizza al taglio, quelli che la vendono. Caro David, riaprire in sicurezza. Oggi ho dovuto montare tutti i pannelli di Plexiglas e per servire i caffè ho dovuto fare dei piccoli loculi uno accanto all'altro, che tu ti prendi il caffè in questo comparto piccolino tutto in Plexiglas, io ti servo il caffè tutto vestito come uno che lavora in un laboratorio biochimico, mascherine, camici, guanti, tutto tassellato in Plexiglas, totale 3.200 euro, poi devo pitturare, devo comprare la roba per riaprire, me ne vado sui 6.000 euro, questa è la ripartenza, ripartenza di sta minchia, e vendo il caffè a un euro e una pizzetta a un euro, mandate a fare in culo. C'è un'intera classe di lavoratori che è molto incazzata con te per le tue posizioni che hai preso, anche per il mio contributo, anche per il mio contributo, sì, perché non l'ho mai sostenuto. Però allora, questi soldi qui vanno restituiti, lo cosa, Stato glieli deve dare per una piccola norma. Cosa sul mondo. Facciamo un focus su questo. No, non c'è nessun focus. Quelle focus economia. Solo telefonate contro. Allora, maledetto, dirti... a me non ho mai sostenuto nulla. Allora, posso dire una cosa, ragazzi? Non ho mai parlato in questa trasmissione, in altre sedi, ne ho parlato della questione del gioco del pallone, cioè del calcio, no? Molti di voi che ci seguono sicuramente sanno che io voglio la ripartenza del campionato di calcio. Perché sei laziale. Ma no, ma non solo per questo, ti assicuro. Per una questione di principio. Però ti posso dire una cosa, in generale io ho ammirato moltissimo oggi un giocatore del Barcellona per parole che non sono solamente non riguardano solamente il pallone, per le parole che ha detto, ti giuro, si chiama Rakitic, è un centrocampista molto conosciuto nel calcio, tu non lo conosci perché non sai un cazzo di queste no, cose. No, non interessa, allora, no, ma senti queste parole qui. Sono Arachidi. Pronto, Rakitic, no, Arachidi. Rakitic. Rakitico. Sì, vabbè, buonanotte. Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato, ma voglio tornare a giocare. Lo dico con la consapevolezza che il rischio sarà molto piccolo, ma anche per la solidarietà con coloro che hanno giocato per noi dal primo minuto e che continueranno così per molti giorni. Dobbiamo giocare con le massime misure di sicurezza, sapendo che non sarà mai sicuro al 100%. Per noi come per qualsiasi lavoratore. Anche i dipendenti dei supermercati si cambiano negli spogliatoi e hanno le stesse possibilità di contrarre il virus rispetto a noi. O forse anche di più. Loro corrono quel rischio e anche io voglio farlo. Applausi per favore la corte. Grazie, grazie a questo. Detto questo, ancora dagli interventi al Senato, uno dei 5 Stelle, che si chiama Licheri. Signor Licheri, senti, il virus si debella rispettando gli equilibri del pianeta. Ancora con questa teoria assurda. Non con il vaccino, dice lui, ma rispettando gli equilibri del pianeta. Altra cazzata, altra cazzata mondiale, altra cazzata mondiale. Ma sì, ma certo, senti, senti. Perché forse adesso l'abbiamo capita la lezione. Davanti alle grandi malattie, l'antidoto non sta in un vaccino, 2 vaccini, 10 vaccini. Sta semplicemente nel vivere rispettando gli equilibri di un pianeta. Dunque, signori miei, secondo questo signore dei Five Stars, noi non dobbiamo in realtà puntare sul vaccino, non dobbiamo puntare sulla medicina, non dobbiamo puntare. Ci vuole l'ambiente, ma c'ha ragione però. Senti a cosa sei ridotto. No, ti sei ridotto a fare pure le capienne dei 5 Stelle. Dicono spesso stronzate. Ma in questo caso lui dice che le politiche ambientali sono comunque determinanti oltre al vaccino. Il vaccino è fondamentale, è evidente, no? Allora ragazzi, voglio dire a quelli che fanno il consiglio comunale in streaming, che sono moltissimi naturalmente, comuni in Italia, quasi tutti organizzano dei consigli comunali in streaming. Beh, giusto, cioè, per forza, perché non ci si può vedere diciamo da vicino, c'è la distanziamento sociale e quant'altro, però di stare attenti un po' all'audio, anche noi ogni tanto facciamo delle gaffe. È successo, credo, in Sardegna, in un paese della Sardegna, che a un certo punto una consigliera comunale, tale Giulia De Rosas, ma il nome non è importante, ha dato della battona a una sua collega. Questa qua, col microfono aperto, ha dato, ma non c'è, dicevano, facevano la chiama, no? La chiamata dei consiglieri comunali. E quella sarà andata a fare la battona. È solo Patrizia. È assente, è andata via, presidente, per un impegno di lavoro. Grazie. La votazione è conclusa. È assente, è andata via per un impegno di lavoro alle 10. La votazione è conclusa. Sta facendo la battona a via Genova. Io lo trovo straordinario. Poi si è scusata, ha chiesto umilmente scusa. Non penso quelle cose. Ma perché ti vengono in mente però? Ci deve essere qualche cosa. Perché è un momento di rabbia. Ma no, così, perché una dire, che non c'era, quella di Forza Italia, l'altra del PD, ma non c'entra questo. Cioè, perché ti viene in mente sarà andata a fare la battona in via Genova? Appunto, perché una roba pazzesca, dai ragazzi. Questo lockdown produce delle cose incredibili, perché non si può. Cioè, i consigli comunali, altre volte uno ha gente che ha bestemmiato, eccetera, eccetera. Però attenti, dovete stare calmi, tranquilli, capisco che dà la testa il lockdown, però ragazzi controllate bene i microfoni, no? E ancora non ha parlato di Salvini che occupa il Senato, niente. Ma chi se ne frega dell'occupazione del Senato? Ha occupato il Senato tutta la notte. Ragazzi, la Paradiso, la volete sentire la Paradiso? Niente. Andiamo con la Paradiso, allora, la scena è questa, vedi l'introduzione che ti ho fatto, che ti ho portato fino all'apice, ti ho portato fino a un grande climax, ho creato, no? No, grande, sì, crescendo, sì, crescendo messo, con la Paradiso, finisce con la Paradiso, perché Maurizio Paradiso, come sapete, colpo grosso, poi la decadenza, i film porno, grande showgirl, ospite più volte di programmi condotti dal qui presente David Parenzo, non ce lo dimentichiamo. In passato, quando lavoravo in passato, vent'anni fa, praticamente con l'uccello di fuori a combattere contro a favore dei gay, vent'anni fa, ce lo ricordiamo tutti. Ce lo ricordiamo tutti. Allora, la signora Paradiso davanti a un supermercato a Milano, cosa succede? Succede che una signora, un'anziana signora, una vecchia, se così volete dire, praticamente protesta con lei perché non c'ha il tagliando dei disabili sulla macchina. Ma Maurizio Paradiso sta litigando. Ma io non riesco a capire. Successo, sono in macchina, sulla mia macchina, nel posto degli invalidi, è tutto. Questa arriva e... Io non è regolare. Se non ha fuori il tagliando degli invalidi non è regolare. Non conta quello, signore. Intanto io non ho la mia macchina non ero lì da sola, io ero sopra. Ma non e io ho un tesserino di invalidità. Non ha importanza, signora, non ha importanza. Anch'io ce l'ho quello. Anch'io ce l'ho. Ci vuole quello blu, è inutile che fa tanti casini. Ci vuole per mettere sulle mani, ci vuole quello blu. Ma se siamo tutti quanti. Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita? Ma perché non mi bacia questo culo? Questo qua. E fa così. Ma mi dà una bella leccata al culo. Come sei volgare. Ok. Mi vergogno di essere una donna. Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto tre volte. Allora, ok, t'ho già detto tre volte che ci sono stato una minchia così, non rompermi i coglioni. Dai, va, se sei qua a fare discussione. Oh, cazzo! Se qua discussione per niente, ma vai, così almeno. Io non capisco perché sta cazzo di malattia non ha fatto il suo corso. Eppure. Lo sai cosa dicono a Milano? Che sentenza d'asilo non vuole il cielo! Sai cosa dicono le mie tette? Succhia, me le troia! Questo è incredibile. Ma no, ma è una cosa incivile, ma è una cosa incredibile, però. Sono imbarazzato. È imbarazzante. Comunque, ragazzi, è oggi poi parleremo con Maurizio e chiameremo più tardi perché chiaramente. Ma cosa c'è da approfondire? Cosa c'è da io voglio dire, uno sente un audio raccapricciante come questo, decide di mandarlo in onda e poi dice: e poi approfondiremo. Ma cosa c'è da approfondire? Nulla, effettivamente. Nulla. Cosa c'è da approfondire? Oggi... Uno approfondirà con Zagrebelsky, no? Tutta la questione. Questo vuole paragonare Zagrebelsky a Maurizio Paradiso. Uno ha fatto la storia. Invece, no, non mi permetterei mai di paragonare. Cioè, posso dirti una cosa? Allora, oggi voglio fare un elogio alla Chiesa Cattolica, in particolare al Papa. Ti sorprenderà questa cosa, però lo voglio fare. Allora, l'elemosiniere del Papa. Peraltro il Papa. No, aspetta. Ma peraltro, scusami, il Papa è collega di Alessandro I, Pope della Chiesa Autocefala. Teoricamente. Più o meno, sì, più o meno sì. Allora, l'elemosiniere del Papa, per conto del pontefice, ha dato i soldi ad un gruppo di transessuali in provincia di Roma, vicino Torbaianica, sul mare, per pagare l'affitto. Io lo trovo un gesto meraviglioso. Lo trovo un gesto meraviglioso, ti giuro. Lo trovo un grandissimo gesto. Cioè, invece di riattaccare la luce dove ci sono le case occupate, come ha fatto l'elemosiniere del Papa, ma sbagliando. Uno è l'altro. Non riattaccare la luce e dare i soldi alle prostitute che in questo momento soffrono. Dove c'è povertà? Grandissimo gesto, c'è, applauso. C'è la Chiesa, applauso. Bene. Ma non c'è povertà, lì c'era illegalità. Io direi, Salvatore, se mi accendi la lucetta rossa, di partire immediatamente con la prima telefonata. E partiva l'emigrante. E portava le provviste e due o tre pacchi di riviste. Non avete paura. E partiva l'emigrante. Poi volevo fare un complimento a te che vedendoti in televisione mi ricordo il mio amico che aveva 31 anni, poi c'è morto con un incidente d'auto. Forse te l'avranno detto, Rino Gaetano, tu assomigli molto. Ah, ecco, sì, sì, ok. Una prugnetta mi faccio crociare. Ma è normale, è normale. L'ultima cena l'ho fatta con Giuseppe Cruciani, con Rovazzi e con i miei amici delle Iene, perché sono e ho pagato 5.500 euro da Borghese, in totale credo di aver speso più di 2 milioni e mezzo di euro di cena. Oh, tranquillo Enzo, che Cruciani non pagava. Cruciani non pagava. Questa è gente che ha un sacco di chiacchiere, ma di braccino corto. Ma Romazzi è un bravissimo ragazzo, ma però partecipa volentieri alle cene pagate. Ecco la prova. Sì, ma posso dirti una cosa, a parte che non è vero. Ecco la prova del grande pupo, ecco la prova. No, abbiamo anche le prove. Posso dirti abbiamo una cosa? Abbiamo la pistola fumante. No, ma che pistola come fumante? Fosse il anche grande pupo. Posso dirti, se uno insiste, quando vai a cena fuori con pupo, se tu risentiamolo insisti, un attimo, risentiamo ma l'abbiamo cosa già detto, sentito, però, ma perché un devi far risentire no, no, un'altra ma risentiamolo volta? Ancora, perché è importante quello che dice il grande pupo. È l'unica trasmissione in tutto il mondo, compresa la Russia. È l'unica trasmissione in cui i conduttori si insultano a vicenda. Tutta la puntata si insultano e si delegittimano su tutto. Però qui tu è Pupo così, che parla, non sono io. Qui è Pupo che parla. E Pupo, sentiamo regia, per piacere. L'ultima cena l'ho fatta con Giuseppe Luciani, con Rovazzi e con i miei amici delle Iene. Perché sono e ho pagato 5.500 ma euro. Non è vero, da, poi, ma che miseria. È vecchio questo è vecchio. In totale credo di aver speso più di 2.5 milioni di euro di cena. Oh, tranquillo Enzo, che Cruciani non pagava. Cruciani non pagava. Questa gente, gente che ha un sacco di chiacchiere, ma è di braccino corto. Ma vedi, gente dice, gente tutto che ha un confermato sacco di chiacchiere e dunque comprende anche Rovazzi. Ma è di ma no, ma non è questo. Se appunto, tu, appunto, allora, certo, se tu vai a appunto cena con Pupo, siete tutti è impossibile uguali, pagare. Siete tutti impossibile, uguali, impossibile. Poi vai con Feltri, è impossibile pagare perché paga Feltri. Insomma, con te è impossibile pagare sempre. Per te è impossibile pagare. No, ma sei, guarda, sei veramente incredibile. È una cosa, io per non parlare delle note spese che presenti a Sole 24 Ore, ma magari questo, cioè, con la nuova proprietà. No, va bene, abbiamo tempo. Questo, scusami, perché si è appena insediata la nuova proprietà. Vedremo. Ma stai dicendo una cosa incredibile. Vedremo. Dopodiché, se il direttore, se il nostro direttore accetta che tu presenti quelle note spese. Ma io non ho mai presentato una nota spesa in 20 anni. No, ma non voglio nemmeno dire niente, una, guarda, credo. Siamo nemmeno in diretta, una. Siamo in diretta. No, chiedo scusa. Vabbè, verifica. Se sulle vi note spese rivolgiti a qualcun altro. Andate a verificare quello che faceva quando veniva a Bruxelles al Parlamento Europeo. Andate a verificare, amici cari. Ma cosa andate spese a verificare? Le note spese, i taxi mai presi che venivano poi messi, guarda, comunque che in, allora, nota spese perché dicevi tanto paga il Sole 24 ma ore. Ma cosa c'entri i taxi? Ero in trasferto ufficialmente. E li prendevi due volte quei taxi. Andiamo a verificare cosa accadde volte in quegli anni. Che ti facevi fare a babbo morto le ricevute dai tassisti di Roma. Tutti te conoscevano, a dottor che la vuole bianca come al solito, mettiamo 70, questo, no 80, dottor, a babbo morto. Ma sei un morto informatore professionale. Andate solo a verificare, perché le ricevute dei taxi dovrebbero essere due, cioè dall'aeroporto al ritorno. Come ma mai che tu ne avevi quattro? Andate dici a verificare, so ma che questo sono anni passati. Vabbè, dai, tanto come fai a verificare se è vero? Questa è una novità, questa è una grossa novità. Ma c'è nessuna novità. Ma quale novità? Andate che non mai faccio una nota spesa in vita mia, mai. Le fake news nascono così. Tu perché ti ho dimostrato. Comunque, ragazzi, a proposito di notizie incredibili, io me ne sono tirate giù alcune solamente di oggi o al massimo di ieri, per dire quanto non ci si capisce ancora un cazzo, nulla. Un grande giornale ieri titola: quei dubbi sull'immunità che allarmano gli scienziati, cioè grandi dubbi sull'immunità, sul fatto che uno può essere immune al coronavirus. Il giorno dopo, lo stesso giornale, titola: coronavirus è confermato, tutti i pazienti guariti sviluppano gli anticorpi. Ragazzi, non so che dire. Cosa? Poi altra notizia di oggi: Covid è mutato 33 volte da quando è partito dalla Cina. 33 volte, tu ci credi? No? Perché 33 volte, non 34, non 30, non 55? 33 volte fino adesso. No, una cosa incredibile. Poi c'è un altro molto famoso che si chiama Robert Gallot, no? Detto la francese. E il quale dice: non abbiamo un vaccino? Ma utilizziamo quello per la polio. Come quello per la polio, scusa? Ho letto questa cosa di un luminare oggi, che se non si può avere il vaccino in tempo utile, si può utilizzare quello per la polio. Ma ti pare normale a te una cosa di questo tipo? No, mi sembra una cosa pazzesca, dai. Allo stesso tempo c'è gente che dice che il vaccino non si avrà mai, e poi arrivano proclami incredibili da questa strana coppia Pomezia-Oxford, da questo strano connubio in cui ti dicono: a dicembre sicuramente avremo il vaccino. Ma andate tutti a fare in culo. Matteo da Prato, vai Matteo, vai. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. No, io vi ho chiamato per due cose. La prima è il discorso di Renzi, che vabbè, mi sembra un po' disumano quasi personalizzare la parola. Ragazzi, di però allora è molto criticato questa cosa qua. Questa frase di Renzi è stata molto criticata. Perché forse sì, inopportuna, però, no? Sciacallaggio. No, sciacallaggio non lo so, mi pare inopportuno tirare in ballo i morti di Bergamo per dire di riaprire. No, ma tutto qua voi è il volete, nesso che non ragazzi, esiste. Voi volete i morti ridurre di Bergamo è una tragedia. Senti come ti piace questo argomento. Senti come politico. Ti piace questo argomento della politica, sì, di Renzi, ti piace moltissimo. Mi piacerebbe discutere con te di Bernard Guetta che ha scritto un articolo. No, però posso dire una cosa, Matteo, scusami. Allora, voi volete togliere il gusto della retorica nella politica, volete una politica appiattita, fatta da scienziati, certamente ce n'è, anzi che ce ne sia troppa, volete togliere il gusto fantastico di quella politica declamata, la politica è anche questa, è anche retorica, è anche utilizzare delle frasi esagerate, ma è normale ma che sia così. È tempo, ma ragazzi, ma è vero poi alla fine, se uno vuole ricominciare a vivere, probabilmente nella politica si può dire, beh, gli stessi morti ce lo chiederebbero, ma è normale dire così. Capisco che lo dice Renzi, allora è uno sciacallo utilizzare i morti. No, ma il mio intervento è nato in realtà da un'altra cosa. Però incazzatevi, è giusto incazzarsi, per carità. Io lo trovo normale in una, quando uno fa il politico e non è che fa il burocrate, non fa il virologo, declama, dice delle frasi che qualche volta sono esagerate, chi se ne frega, invece sciacallo Renzi, ma vaffanculo. No, ma il tutto è nato dal fatto che io con il mio lavoro, la mia professione, io sono una di quelle categorie che è rimasta aperta a lavorare sempre, di fatto, seppure ritmi, regimi, ovviamente ridotti, tutto il resto. Ma perché hai chiamato? Non ho capito, ancora non ho capito bene perché hai chiamato. Noi facciamo tutti quei controlli sulle mascherine, dispositivi di protezione e tutto. Vabbè, allora? Renzi dice di riaprire, ma le chi Renzi? Ma Renzi dice, non è che dice di riaprire, che tutti in strada a baciarci e a inchiappettarci per strada, a fare sesso di gruppo in piazza. Cosa vuol dire quando uno dice riaprire? Ragazzi, la cosa è molto semplice. Se oggi l'OMS ha detto, e io non credo mai all'OMS, però lo dice l'OMS. L'OMS dice la Svezia è il modello da seguire. Ora la Svezia cosa ha fatto? Uno può dire che la Svezia è un modello diverso, sono più civili rispetto agli italiani, seguono più le istituzioni, d'accordo, ma la Svezia non ha dato nessun obbligo alle persone di rimanere dentro, ha messo 4-5 regole e l'OMS oggi ci dice, non so perché, che è un modello. Ma di che parliamo? Dai, ciao. No, questo sì. Massimiliano da Monza, avanti tutta, dai Massimiliano, vai. Pronto? Dimmi. Allora, sono rapido. Dimmi. Diciamo che il tono che noi ci diamo è un tono un po' ridanciano e l'argomento che metto fuori è un pochettino serio. Dimmi. La nostra Maurizia... Paradiso, sì. Sì, e se ho ben capito si è incazzata perché gli hanno chiesto il contrassegno disabili per parcheggiare. Sì, non è che gliel'ha chiesto la polizia, esatto, però gliel'ha chiesto un'anziana signora. Allora, cioè... Esatto, allora... Mi dispiace, ma quella signora ci aveva ragione. Perché... No, ma ragazzi, adesso non mi interessa adesso sapere chi ha ragione. No, ma sentiamo o no. Sentiamo cosa dice questo ascoltatore, però è interessante. Dice che ha ragione perché secondo lei, secondo lui, immagino uno deve avere il tesserino fuori messo lì sulla macchina, d'accordo, per carità. Uno deve avere il tesserino perché sì, però posso dirti una cosa, caro Massimiliano. Se non tu non hai il tesserino, ti becchi la multa. Sì, ma quello però tocca alla polizia intervenire o ai vigili urbani, non è che tocca a una signora che rimprovera la Paradiso. Che vuol dire, ragazzi? Poi quella signora lì non, però siccome in tante non ha fanno capito i furbi in che guai sui post per i disabili, sì, no, ma ho capito. Ma non ha capito in che guai si è messo. Che veramente non, magari non ha capito in che guai si è messa la signora affrontando la Paradiso. Pensava di fare questo, sicuramente. Però dico mio, quella gli ha tirato fuori il culo, gli ha fatto tiè, signora mia. Siccome io sono a mia volta una persona disabile, no, ma... se io trovo il parcheggio disabile certo. occupato da una persona senza che il tesserino, non ha il tesserino certo, io gli faccio certo. un pochettino il culo. No, capito? Ma Massimiliano, giusto. Per carità, tu bravo, hai perfettamente bravo. Ragione, ovviamente, ma nel solo, merito. Sei anche autorizzato a prendere, secondo me, devi portarti in macchina, come si dice, un martello o meglio ancora un cacciavite. E se non c'è il tesserino, sei anche autorizzato a rigare la macchina. Quelli che mettono la macchina nello spazio disabili sono autorizzati. Chiami i vigili se non arrivano. E tu non puoi entrare, sei autorizzato con la chiave a fare un bello sfregio. Non arrivo a tanto, però solitamente chiamo i vigili urbani e quando li becco che fanno una roba del genere, effettivamente mi incazzo. Ciao amico mio, ciao. Ragazzi, Don Fanzaga, pensavo di non doverlo più mettere, signor Fanzaga, Don Fanzaga. Ora io capisco tutto, però va bene anche questo, dai. Dopo la Madonna che dovrebbe intervenire per chiudere questa vicenda del coronavirus, dopo aver attaccato l'universo mondo perché le chiese non riaprono e le messe non si possono fare, adesso il virus è lanciato per fare il vaccino e guadagnarci. Non è che lo dico io, non è che lo dice un complottista così, lo dice un esponente importante della comunicazione cattolica cristiana in Italia, signor Don Livio Fanzaga. Sentite e ammirate tutti. Non vorrei che questo virus fosse stato lanciato nel mondo per fare il vaccino, per guadagnarsi sui 7 miliardi di uomini che verranno vaccinati. Cioè, la mente umana è così perversa, è capace di fare anche questo. E comunque non si sa affatto qual è l'origine del virus, perché la narrazione cinese che viene dai pipistrelli ormai la crede più nessuno. Si parla invece di un errore, di un incidente che è avvenuto lì a Wuhan, o forse, non si può escludere a mio parere, perché questo virus funziona troppo bene. È una cosa programmata, è così micidiale, così perfetto, così ben piazzato, sì, così tremendo, che mi chiedo se non l'abbiano inventato una cosa del genere per poter fare un bel vaccino che vaccina tutti quanti e quindi con guadagni miliardari, ma chi lo sa? Lo sa Dio! Il vaccino, inventato per produrre il vaccino e fare guadagni miliardari, la tesi di Don Livio Fanzaga. Mamma poi mia. Dice sempre forse, chissà. In realtà quando lo dice chissà. Fa il paio con Meluzzi questo qua, fa il paio con Meluzzi. Giancarlo da Padova, anzi prima c'è Beppe dalla provincia di Asti, vai. Pronti? Dimmi Beppe, dimmi. Ciao Beppe. Dai, vai. Avevano preso subito, vai. Beh, preliminari, ciao, lo sai che li odio queste cose, no? Cioè, vabbè, le odio. Ascolta. Sì, sono cazzi miei, ma sono cazzi di tutti. Vabbè, articolo 21. Vai, allora sì, ma articolo 21 qui allora. Non si esercita in questa trasmissione, si esercita la dittatura del conduttore, che è una cosa un po' diversa dall'articolo 21. Vabbè, sai cosa vuoi, laziale? No, ma cosa c'entra adesso? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Ascolta, dai. La paradiso, inopportuna e antipatica, e antipatico, e maleducato. Che si permette di trattare così e sì cosa? Ma ho capito, amico mio, ma cosa ragione, vuoi? È la paradiso, sì, ma è la paradiso, è la paradiso ragazzi. Non è che è un lord non è un lord, è la signora Maurizia Paradiso. Ma poi scusa, perché vai a rompere i coglioni? Ma io vado a rompere i coglioni. Ma perché? No, tu che c'entri allora. Tu? Ma che c'entra un finocchio di merda? Non ho capito. Scusa, ma perché la devi chiamare un finocchio di merda la Paradiso? Ascolta un attimo. Ma allora, non ti vergogni di aver chiamato un finocchio di merda? Guarda, mamma, che ti ci metto mia, in contatto e ti faccio fare un culo così dalla Paradiso, amico. Dai, è quello che voglio. Ma vai. Finocchio di merda, perché l'hai chiamata finocchio di merda? Ma come ti permetti di insultare così? Ascolta. Ma ti devi vergognare, finocchio, di aver detto finocchio di merda. Ti devi vergognare. Ma ti devi vergognare. Ti devi, se dopo ti metto in contatto, ma ti devi vergognare. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare di aver dato del finocchio di merda alla Paradiso. Imbecille. Fermo là. Fermo là. Ha visto ieri? Io scendi e andare di qua. Andare a comprare qualcosa di coke. Ho detto, polizia dice di me, vai a casa, non posso, vai dentro, compra qualcosa. Ha paura di coronavirus. Run. Ha paura di coronavirus. Run. La qualità dell'audio è pessima. Quando? Hai ragione, Cruciani. Non è vero che i carabinieri improvvisamente sono diventati fascisti. Hai ragione. Lo sono sempre stati, questo è il punto, questa è la verità. Lo sono sempre stati. E tu, anarchico dei miei coglioni, sei il più fascista di tutti. Crucià, alla Chiesa non è che gli interessa che vadano le persone a pregare, gli interessa che vadano le persone in chiesa a portare i soldi, ci stanno rimettendo un sacco di soldi, capito? Stanno rimettendo i soldi, le questue, i soldi. Remida, al contrario, tutto quello che tocchi diventa merda. Sei un grande, David, sei un grande. Grandissima citazione di Daniele Luttazzi parlando di Berlusconi. Grandissimo, grande David, fanculo Cruciani. Secondo voi? Mia moglie c'ha 23 anni. Vabbè, voi quanto me ne daresti? Come si dice? Amore, minchia, mi confondo. Quanto anni mi avrebbe dato? È quasi tenera questa qua. Sempre sia vera, naturalmente, penso di sì, però. Sul famoso TikTok. Social, sì, credo che sia TikTok. E questa qua sta girando, naturalmente, questa, no? Questo italiano balbettante, se così si può dire. Però è quasi tenero, quello se n'è andato. La qualità dell'audio appunto, è pessima. Claudio da Milano, avanti tutta. Claudio da Milano, vai Claudio. Ciao Cruciani, dimmi. Buonasera. Senti, sì, dimmi. Chiedersi, no, sì, è ritornato il buonasera qua, ragazzi. Non avete capito che io il buonasera non lo voglio, il buonasera. Vai dritto. No, ma vaffanculo nemmeno, né buonasera né vaffanculo. Non sento Giancarlo da Padova. Zitto, Giancarlo da Padova. Richiamate questo, non si sente. Giancarlo da Padova. Tutto. Ciao Cruciani, di Milano, sto ritornando col camion da casa. Dimmi. Volevo prima dire a Cruciani, parenti, scusa. Diceva per quanto riguarda dei coronavirus, che è dovuto all'inquinamento. Sì. Ma chi l'ha detto? Nessuno l'ha detto. Ma è stato che. Sì, ma l'ha detto un tizio dei 5 Stelle oggi che bisogna ripensare il mondo. Ha detto che bisogna anche tenere presente che l'inquinamento può portare nuovi virus. Questo è evidente, però. Mamma mia, ragazzi, dai, forza, Giancarlo, dimmi. I ghiacci che si sciolgono possono rilasciare dei virus. Senti quell'altro, i ghiacci che si sciolgono. 400 anni fa, quando c'era la peste, c'era il paiolo, ok. L'inquinamento non c'entrava niente, anche il modo di vivere, sempre senti quella questo, era. Tutti ma sì, ci sono sempre tutto, state le malattie infettive, da quando il mondo è mondo. Bravo. Incredibile, il camionista che discute di inquinamento, certo, di ma virus. Che devi dire, non può parlare. Ma incredibile, ma tutti quelli che parlano di coronavirus oggi, porca sono uguali al bagotelma, perché bravo. Nessuno porca sa un cazzo. Bravo Giancarlo, ognuno deve indovinare. L'opinione di Giancarlo, l'opinione di Giancarlo è esattamente uguale. Per me vale come quella della Capua, ti posso dire? Quello che pensa Giancarlo camionista, mamma mia, che bestemmia, è sullo stesso piano di uno virologo che abbiamo ascoltato in televisione fino adesso, con delle differenze naturalmente, ma alla fine come previsioni, allora fai fare il virus al camionista, certo, vergognati, scusa. Ora tu devi far fare il virus al camionista e devi prenderti il virus che ti fa il camionista. Vergognati, Cruciani. Fagli credere che la sua opinione vale quanto quella della professoressa Capua, che è una scienziata con i controcoglioni. Adesso facciamo così: tutti uguali. Senti l'altro, virologi, tutti uguali. Virologi, adesso faccio l'autista io. Ma lo vuoi rispettare o no? Lo vuoi rispettare? Non lo stai rispettando. Non lo stai rispettando. Camionista è il primo. Festa, non la tua, che non hai mai fatto un cazzo nella vita. Domani è la festa di quelli che lavoriamo. Allora, Giancarlo da Padova sta dicendo una cosa, tu lo stai denigrando mentre quello si spezza la schiena. La Capua non lavora sul camion. Tu invece passerai i prossimi tre giorni sul terrazzo di casa a bere cocktail. Scusami, mentre Giancarlo da Padova si è fatto un culo sul camion. È dalle 5 di stamattina che sto viaggiando, sto ancora rientrando. Diglielo. Ma diglielo, ho capito. Sono qua, devo andare. E il tuo aperitivo sul terrazzo. Ma non siamo faccio noi nessun che te lo aperitivo portiamo, sul terrazzo. Siamo faccio noi, nessun perché aperitivo. Non vai con le bustine di plastica in Sicilia a prenderti le tue arancine? Ma a parte, scusatemi, fratello caro, a parte che non sarebbe neanche un crimine fare un aperitivo, ma per ora non l'ho fatto. Dopodiché, seconda cosa voglio dire, Cruciani le sta facendo credere che lei, la sua opinione, conta quanto quella della professoressa Capua, certo, che è impegnata nel fare il vaccino. Ora, che io sta lei è molto simpatico. Sinceramente Ed sarà una delle persone che le consentirà. Perché non conosco questa professoressa. notte non è dormo. Uno di quegli scienziati, è uno di quegli, dovrebbe non dormire, ragione, perché è uno di quegli giornale. Scienziati che le sta facendo il vaccino e che le permette di non infettare, perché è quella che sta facendo il vaccino, imbecille, cose nuove di cui non sa niente neanche lei a scuola. Allora, caro, allora lei mi faccia un favore, mi faccia un favore, quando esce il vaccino lei non lo prenda, se lo faccia fare da suo collega camionista il vaccino e non rompa i coglioni e beva quello che gli farà il suo amico camionista. In casa, no, sono 28 giorni in casa, sono a posto. Hai passato 28 non giorni in casa. Neanche di casa. Allora, ma questo, Davide, è un grande format. Un grande format è mettere insieme, Francesco, mettere insieme il camionista, il camionista e la professoressa. Ma come non ci hai perché non ci ha pensato prima? Perché lei non ci ha pensato prima? Lo dica, perché non ci ha pensato prima? Mettere in uno stesso studio, ovviamente per denigrarlo, ovviamente una professoressa insieme a un gruppo di camionisti. Perché non ci hai pensato prima, Francesco? Naturalmente questo già avviene, purtroppo, naturalmente. Cioè già oggi naturalmente c'è Red Ronnie che discute naturalmente con un virologo, quindi è già successo naturalmente, dai, che succede già sempre in tutti gli studi di Rete 4, tu hai Red Ronnie che discute di vaccini con un premio Nobel e Red Ronnie che gli dice lei non sa un cazzo, il premio Nobel poverino che non ha la dialettica televisiva soccombe, è tutto uguale ormai, dai, però è bellissimo, già no, succede questa, è bellissima questa cosa secondo lei, criminale, no? Ed un criminale già succede, ciao Giancarlo, ti abbraccio, ciao ciao ciao. Allora ragazzi, posso dirvi una cosa? Adesso Parenzo dirà che questa trasmissione contribuisce sicuramente a quello che viene fuori da un sondaggio dell'SVG che è stato anticipato a questa disgraziata trasmissione. Ma non so perché infatti gli amici di SVG ci hanno anticipato questo sondaggio, non riesco a capire perché, vabbè, comunque. Allora, no, mi risulta strano perché peraltro il presidente, che tu conosci bene, Adrio, il comandante De Carolis, sì, assolutamente, che ti ha offerto anche un paio di cene, mi hanno detto più volte, non è stato, so, non come ricordo. Al solito, no? Non mi ricordo, comunque, allora... Perché ha anticipato una notizia bomba come questa alla Zanzara? Mi allora, strano, no, posso dirti una cosa, dunque, secondo l'SVG, un sondaggio dell'SVG, alla domanda precisa, voi... che cosa pensate dell'origine del coronavirus? Praticamente il 50% degli italiani, il 47% per l'esattezza, pensa che sia stato prodotto in laboratorio, cioè non è un, non, pazzesco, è, non c'è una causa naturale. Cioè la domanda è... Cioè la metà delle persone intervistate da SVG dicono... Esatto. La metà delle persone praticamente dicono che è stato inventato in laboratorio. È stato creato in laboratorio. All'interno bisogna di questo... dire grazie a te, grazie alla Zanzara, no, perché, dire, perché hai contribuito a perché sei un propalatore di balle. Ma magari qualcosa e guarda di vero i risultati. Ci sarà. Quando ti dico che tu distruggi la credibilità di questo paese, poi SVG ha certificato che il 50% degli italiani pensano questa cosa. Ma perché incredibile. È una cosa probabile questa cosa qua, non è una cosa così folle. E all'interno di questo 50%, che in realtà è il 47%, il 31% è convinto che il virus sia sfuggito per sbaglio in un laboratorio dove era stato manipolato da scienziati, e il 16% che è stato fatto circolare intenzionalmente per scopi specifici e segreti. Cioè praticamente il 20%. Il 16% è tanto, però. 16% cosa dice il 16? Che il virus è stato fatto circolare intenzionalmente per scopi specifici e segreti. La grande tesi complottista. La grande tesi complottista. Moreno da Trieste, avanti tutto, dai Moreno, dimmi. Sì, ciao, buonasera, chiamo la Trieste, è ora di finirla, basta, sveglia, dai, calma, l'altro calma, anno... Calma, calma, calma, calma, sì. Calma, devi stare calmo. Calmo, sì, però l'altro anno, ad esempio, nel mondo sono morti più di 1 milione di persone per influenza, e non vedo adesso perché tutto con questo qua, tutto, dai, è tutto un complotto, qua è ora di finirle. A Trieste, ad esempio, la gente oggi con le mascherine, domani senza, oggi i carabinieri ti fermano... Come? Io ok, non avevo la mascherina, avevo la sciarpa, tu mi fermi, mi rompi i coglioni a me perché non ho la mascherina sotto la sciarpa quando tu non ce l'hai, che sei carabiniere. Ma dai, per favore. No, ma che ci siano, Moreno, che ci siano delle contraddizioni enormi, delle follie, su questo non c'è dubbio, cioè nessuno lo mette. Cambia ogni giorno legge qua, ma non si capisce più un cazzo. Questo è un complotto, ragazzi. Ma complotto di chi? Mascherine dovevano essere per tutti, dove ci sono? A me non è arrivata neanche una mascherina. Ma complotto di chi? Te la devi andare a comprare la mascherina in farmacia, te la devi andare a comprare, no, non è che ti arriva a casa. Ho detto, il sindaco ha detto mascherine per tutti e vi arriverà nella cassetta della posta. E allora prenditela col sindaco. Se il sindaco ha detto una cazzata, peggio per lui sicuramente. Perché è un testa di cazzo. No, vabbè, calma, signor di piazza. Come si permette? Come si permette di trattare così un sindaco? Come si permette? Ma dai, come mi permetto? Ma dai. Che magari manco è vero quello che dice sto qua. Ma lei che cosa? Ma come facciamo noi a sapere se è vero quello che lei dice? Ma chi se ne frega del tuo canale? Andrea da Modena, vai. Andrea del canale, ognuno c'ha il canale. Ognuno. Che poi la cosa drammatica è che ognuno fa il suo canale. telegiornale. Cioè, capito? Adesso questo signore qua fa il suo telegiornale. Perché, cosa cioè, vuoi impedire alle persone arrivati, di avere il canale? Non ho capito. Ma siamo al delirio che ognuno dà le proprie notizie così come va. Io faccio, guardate il mio canale. Ma che cazzo sei, un coglione? Qual è il mio canale? Ma perché che vuoi dici del tuo canale? Perché vuoi cancellare la possibilità che le persone abbiano un canale? Ma mi spaventa questa cosa che ognuno... Sei una persona adesso, incredibile, sei antidemocratico. Il camionista che dice che il virologo non gli serve perché tanto lui... È una follia, è una pazzia. Sì, però io lo posso dice, capire perché ha sentito in questa fase tutto il contrario di tutto. E dunque io lo posso capire che non gliene frega più un cazzo di quello che sente in televisione da 40 virologi che a turno dicono una cosa e il giorno dopo dicono forse può darsi. Non dovrebbero dire forse può darsi. Voi dovresti dirgli, no, scusi, allora mettiamo gli elementi sul tavolo, cerchiamo di capire di che cosa sta parlando. Cari amici, buonasera, mi sono messo le cuffie, spero che mi sentiate. Se non mi sentite, datemi un segnale che capisco che c'è qualcosa che non va nella nostra diretta streaming. Benissimo, mi state sentendo. Fa risentire, scusa. Pappalardone va risentito. Che è successo? Scusa, Pappalardo, che è successo? Cari amici, buonasera. Sì? Mi sono messo le cuffie. Sì? Spero che mi sentiate. Sì. Se non mi sentite, datemi un segnale che capisco che c'è qualcosa che non va nella nostra diretta streaming. Streaming. Benissimo, mi state sentendo. Ma ditemi che è vero, però. Ditemi che è vero. È incredibile, dai. Francesco dalla provincia di Matera. Oh, Luciani? Dimmi. Io sono incazzato con i ristoratori. Lasciami parlare un attimino per cortesia. Ma che vuol dire sei incazzato con i ristoratori? Poveri ristoratori, sono incazzato con i ristoratori. Ma sono chiusi. Ascolta, fammi dimmi Francesco, dimmi. Sono chiusi perché ci sono alcuni che fanno da mangiare da asporto e il resto sono tutti chiusi. Per quale motivo? Noi siamo quelli che li fanno evadere il 70% tutto l'anno e ci hanno mollato in mezzo alla strada e piangono che non ce la fanno a mangiare. Per quale motivo non fanno da mangiare da asporto? Che noi ci fermiamo nei piazzali dove andiamo tutto alcuni l'anno e mangiamo nel camion. Ma perché non è possibile farlo? Perché non gliel'hanno permesso, se no l'avrebbero fatto probabilmente. Ma rivolgiti a Conte, rivolgiti a Conte. Ma non è dappertutto questa cosa. Non lo so adesso, non lo so. Ah, invece te lo dico io, poi ti volevo dire un'altra cosa. Aspetta, Francesco, però mettiti bene col telefono, se no non si capisce un cazzo, dai. Allora, mi senti adesso? Sto bene col telefono. Dimmi. Dire, per quanto riguarda questi qua, perché a Rimini fanno da mangiare, a Candela fanno da mangiare e in altri posti d'Italia non fanno da mangiare. Da asporto, tu lo prendi, vai Francesco, fuori, ma perché no? Ma vai al supermercato, ti prendi una cosa e te la porti per strada. Ma ascolta, lo faccio, c'ho il ma lo capisco, io sono dalla parte tua, amico mio, io sono dalla parte tua. Libertà e apertura ormai, libertà e apertura. Un'altra cosa a Feltri, volevo che sapessi che il problema del sud, della differenza sociale economica. La cosa incredibile la cosa incredibile è che Giuseppe dalla parte di chiunque protesti, qualunque cosa dica, in questo caso c'ha ragione Cruciani, che dice certo c'ha ragione, ma maledetti, c'ha ragione. Bravo, giusto, sicuramente è meglio dare un nuovo spallaggio alla gente che ha bisogno di spallaggio. Avere un titolo. Certo. Non ho capito che volevi dire a Feltri. Non sono laureato come te, parente. Lo spallaggio che non è laureato, non purtroppo non dimmi Francesco, dimmi. Volevo lo dire spallaggio, a Feltri, spallaggio o spallone? Ma i coglioni tu con quella risata di merda, tu sei un paraculo, devi stare zitto, ma non è che puoi permetterti di prendersi. Lo stai pigliando per il culo, lo stai pigliando per il culo, giustamente si incazza. Stai prendendo per il culo Francesco dalla provincia di Matera, che ha utilizzato un termine dialettale, un termine, un gergo, magari anche un errore, magari anche un errore, e ha tutto il diritto di farlo. Sei una vergogna, sei una vergogna. Parento, come gli riesce al pelo. Parenzo, dai. Io purtroppo non ho avuto la fortuna di andare fuori corso come te, di avere la possibilità di continuare a far finta di studiare perché qualcuno pagava le rate dell'università. Bravo, sì, io ho dovuto lavorare da prima. Rispettalo. Non ha il terrazzo nel quartiere Prati. Non ha il terrazzo sul quartiere Prati. Non ordina le cene, non ordina le cene a un ristorante. Mangia col cartoccio. Compagnia come il trota e mi compravo la laurea per occupare il posto che ho volevo dire a Petri che l'Italia del Sud è rimasta sottosviluppata perché c'è stato sempre un sistema di corruzione che non è stato mai controllato da nessuno. Certo, tu, ma dove cazzo vivi? Dove cazzo sono attrezzati all'inizio? Ti ricordi quante che mi hai risposto? Quante diffamazioni? Diffamazioni sono quelle che fai tu perché parli senza dire e poi quell'altro lì che ti studentello fuori corso, fatti lisciare il pelo da Cruciani, il falso Pope che pubblica balle pubblica balle, certo, ma c'ha una laurea quello vera, che pubblica delle balle dire. Quello lì farabutto pubblicatore di balle, ma dove è finito? Boh, dove andate questo? Si beve. Faida jundillah yadukkuhum dakkan yadukkuhum dakkan dan dan. Andrea da Modena non c'è, Ayub da Trieste. Ma perché quando uno è un immigrato devi dire il signore? Io ho chiamato velocemente per dire quanto sono incazzato nero perché? Con questa situazione di merda, perché non è possibile che una situazione del genere l'opposizione uno fa occupamento come occupazione come se fossimo le superiori, un governo completamente indecente, un debito pubblico altissimo, un debito pubblico questo? Che nei prossimi che mesi va pubblico, adesso che c'entra il debito pubblico adesso? È cosa che c'entra? Una cosa ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra adesso con la fase 2? Ma ho capito, ma che c'entra, cretino? Cosa c'entra adesso? Stiamo parlando di un'altra cosa. Cosa c'entra in generale il debito pubblico? Dai, ciao. È un'altra cosa. Rotti che coglioni. Ma ti pare, David, che in tutto questo casino, cioè in tutto questo bailam con la gente preoccupata di cosa succederà il 4 maggio, i virologi che danno l'allarme su un possibile ritorno del virus, qualcuno addirittura che parla se non stiamo attenti, se riapriamo troppo avremo 105 numeri sballati, 150.000 persone in terapia intensiva, in tutto questo uno si deve preoccupare della cattura di un orso, cioè l'orso, il famoso orso, quello del quello è un tema, è stato catturato, per fortuna è stato catturato, perché comunque è un pericolo e per fortuna è stato catturato, è un pericolo comunque, in libertà è un pericolo, vanno controllati. Signora Martani, si arrenda a questa cosa qua, si arrenda. Che cazzarola la stai dicendo, Cruciano? Come al solito spari minchiate e basta, cioè tu non ti informi, pretendi di sapere, di volere indurre gli ascoltatori a credere quello che dici tu quando la verità è tutta un'altra. Ma qual è la verità? Intanto, prima cosa intanto voglio dire veramente la meschinità, la cattiveria di Fugatti, del governatore del Trentino Fugatti, è proprio un perfido che ha fatto questa azione. Che vuol dire perfido? Nel momento in cui chiaramente siamo chiusi e non possiamo andare a protestare, tra l'altro ha fatto un'azione. Volevi fare la protesta per l'orso certo, finito in trappola. È finita. Gli animali selvatici sono un bene indisponibile dello Stato, capito? Appartengono ma allo non Stato italiano, non cominciare, alla regione Trentino. Ma non cominciare no, a fare le cose da avvocaticchio, dai, su, ma cosa vuol dire? Te lo dico io, l'M49 si chiama comunque l'orso. L'orso okay? M49, il cazzo che è, Papillon. Non ha mai fatto nel male a nessuno. Ma nessuno l'ha ammazzato, è stato catturato. Ma perché deve essere catturato? Se Ma perché cosa deve scorazzare in giro? Ma scusami, cara bella, ma cara, scusami, e bella Martani, bisogna anche dirlo. Cara e bella Martani, ma non è che si può far scorazzare un orso in giro per delle città adesso. Ma non so, non dire stronzate, per favore, che mi incavolo. Allora, tu o le cose le sai o non le dire. Ma per un orso favore. Non intanto, può girare allora, così a zonzo, ma che parli? Allora, fammi parlare. Intanto l'orso portatelo a casa tua, come si dice. Portatelo a casa tua. È stato imprigionato perché ha fatto l'orso, perché fa l'orso e si procura il cibo. È un animale selvatico, è chiaro che si deve procurare il cibo. Prima cosa. Seconda cosa, gli orsi quando uccidono qualche animale degli allevamenti, gli allevatori vengono risarciti con fior di soldi. Ma tra ma chi se ne fa? Non possiamo preoccuparci di un orso oggi? Ma chi se ne frega? Possiamo occuparci di un orso noi? Possiamo preoccuparci di un orso in questa situazione? È stato catturato, anche. Punto e basta, cara Daniela. Arrenditi. Incatenati e vallo a liberare. Fa un'operazione per liberarlo. Vai lì. Allora, non ho capito. Voi volete veramente. Fai Gandhi, fai come Gandhi, vai. Che sopravvivono su questo pianeta siano gli esseri umani. Ma ti rendi conto di che. Beh, meglio gli esseri umani degli orsi. Meglio gli orsi, scusami. Ancora non abbiamo imparato allora niente. Allora vai a letto con un orso. Non bisogna rompere le palle agli animali selvatici. Noi dobbiamo rompere le palle agli animali selvatici. Vai a letto con un orso, allora. Vai a letto con un orso. Se ti piace l'orso più dell'essere umano, vai a letto con un orso, allora. Dai. Sei sempre a letto se devi mettere di mezzo. Qua è il discorso che comunque. No, però scusami, Martani, scusami. Ti dico. Fammi parlare, Parenzo, che non sai le cose. Gli orsi sono stati introdotti in tranquillo. Ma chi se ne frega? Questo orso era in libertà. E l'uomo lo controlla adesso. L'orso è stato catturato con una trappola tubo, che adesso ti spiego cos'è. È stato trasportato seguendo la prassi con l'animale sveglio e sotto il controllo veterinario. Quindi non rompiamo i coglioni. L'orso deve stare in una bella gabbietta, devono andarci i bambini vicino a dire ciao orso a distanza, perché sennò l'orso ti fa male. Ogni tanto gli puoi buttare una caramellina, all'orso, l'orso ti fa il trentino i bambini applaudono. Bravo. Non dire sempre le solite stronzate tue, perché quando vai in televisione sei tutto lizzo e te stai zitto, quando stai in radio invece continui a sparare minchiate. Scusami, fammi capire per ma quale scusa motivo. Io non capisco le persone, scusami Daniela, non capisco le persone che dicono che va rilasciato. L'orso è stato immesso nell'area Contana e Recinto. Sì quindi, ma mi stai tanto lamentando che siamo chiusi da due mesi. Pensa te, un orso che è abituato a vagare per 50 km al giorno, si fa 50 km al giorno, viene chiuso in un recinto che ricopre. Ma pericoloso di che? Ma tu sai quante persone ha ammazzato l'orso? Nessuna. Sai quante persone per sono state uccise dai cacciatori? Quest'anno quante persone sono state uccise? 20 persone più 52 ferite. Adesso mi vuoi dire come al solito che 27 persone sono morte a causa della caccia. Non ho capito. Allora ci sono due persone. Aspetta. In un bosco rischi molto di più di essere ammazzato da una pallottola vagante di uno che di questi sfigati che deve andare a... Certo, piuttosto che allora mettiamo scusami un attimo Daniele, allora, mettiamo due persone accanto, no, che tu devi salvare, un orso e un cacciatore, chi scegli? Cioè, devi salvare la vita, cioè devi buttare giù questi paragoni, poi Cruciani, ma che caspita significa? Senti, è molto più pericoloso un cacciatore che quest'anno dell'orso, ha fatto ma un cacciatore è un essere umano, è un vivente. Ma chi se ne frega? L'essere umano uccide, l'orso non uccide nessuno. Scusa, ma tu che preferiresti incontrare un cacciatore che per caso ti può sempre o un orso che non ti fa nulla e che scappa? Ma tutta la vita un cacciatore, certo. Vai a dire a quelli che sono morti, va, che avrebbero preferito incontrare un orso piuttosto che un cacciatore, te lo dico io. Comunque, guarda, sei una vergogna. Comunque questa cattura è stata fatta in violazione dell'articolo 8 del DPR. Ma che fai l'avvocato? Ma chi sei l'avvocato dell'orso? Sono vicepresidente di un'associazione. Ma vicepresidente di che? Ma che fai l'avvocato dell'orso adesso? Non ha bisogno dell'avvocato l'orso, non c'è l'avvocato. No, c'ha bisogno dell'avvocato, perché gli esseri umani ancora non hanno imparato niente da questo virus, capito? Ancora che c'entra l'orso col virus? Che c'entra l'orso? Ma non si può lasciare in libertà un orso? Teniamolo sotto controllo l'orso, non lo possiamo lasciare in piena libertà. Ma certo che sì, perché non ha fatto del male a nessuno. Ti ripeto che il Trentino ha preso 8 milioni e forse di più. Ma digli qualcosa, Davide, ti prego, digli qualcosa, io non ne posso più. A me sembra talmente normale che un Ma a me io sembra talmente normale che un signor orso non possa girare liberamente come gli pare per il territorio. Mi sembra talmente evidente che non ci sarebbe neanche bisogno di discutere. L'orso se ne sta in una gabbietta o viene preso e portato da un'altra parte, ma non può girare per il Trentino. Scusa, non ho capito. Daniela, scusami un attimo. Ma se tu dovessi scegliere tra due persone, un essere umano, no, no, guarda che allo zoo gli danno da mangiare, c'è il veterinario che lo cura. Ci sono i bambini che lo applaudono, lo zoo è contento l'orso, ci sono i bambini che vanno tutti i giorni e dicono bravo orso, bravo, e gli danno da mangiare. Scusa, non ho capito Daniela, non ho capito bene una cosa, fosse per te metteresti nello zoo dentro un recinto il presidente del Trentino? Non ho capito, il governatore del Trentino invece... Ma stiamo scherzando, vogliamo paragonare Fugazzi a un orso? Cioè, allora meglio... È spettacolare, maestoso, ma di che stiamo parlando? Meglio che prenda... Di un omuncolo come Fugazzi. Omuncolo, ma un omuncolo è un governatore di una regione che ha deciso una cosa. Di che ha dispiegato forze, soldi e ha in questo momento storico dove siamo mettiamo tutti quanti chiusi, lui è andato alla ricerca di M49, sei un poveraccio. Aspetta un attimo, scusa, due persone, il coronavirus se può colpire due persone al mondo, uno è Fugatti e l'altro è l'orso, a chi lo faresti prendere il coronavirus? Ma dai, Cruciani, mi è stufato questa roba, cioè non mi interessa, io preferisco comunque gli animali piuttosto che ricorda, comunque noi abbiamo lanciato una ma chi vuoi chi? Ma parli come il divino che si chiama M49 libero, change.org, ma vallo a liberare, fai un'iniziativa. Viola la legge, vai in Trentino, fatti arrestare se hai il coraggio invece di chiacchierare ogni volta, fai un'azione degna dell'animalismo, vai lì, fatti arrestare, incatenati. È una cosa che avremmo fatto se non fossimo stati rifiuti come l'orso. Ma che avresti fatto? Dai, su, che avresti fatto? Sull'Instagram l'avresti fatto, la liberazione dell'orso, sull'Instagram, sull'internet, non davanti lì a liberare l'orso. Ma non ti preoccupare, che appena riaprono tutto, vedi te, se non andiamo davanti alla castelliera. Ma non andiamo a... Ma le rivoluzioni mica si fanno quando riaprono, ma che scherzi, perché Gandhi cosa ha detto? Appena se ne vanno via gli inglesi protestiamo. Esatto. No, Gandhi la rivolta la fece con gli inglesi. Vai a combattere, a combattere a viso aperto invece di chiacchierare ogni volta con st'animalismo da strapazzo, la gente che chiacchiera, libero l'orso, tutte le associazioni, liberi gli orsi, andate a liberarlo se pensate che stanno ammazzando l'orso e stanno violando la legge. Abbiate il coraggio, prendete un treno, violate la legge, affrontate i carabinieri, andate lì a liberare la liberazione dell'orso se avete coraggio, invece no, chiacchierare, tic tac e lempa, e questo è WWF e la lab, chiacchieroni, andate a liberarlo, andate. Andiamo a liberarlo, non ti preoccupare, appena c'è la possibilità, visto che comunque al momento siamo chiusi. Ma andate negli studi di Mediaset, andate, fermi. Oh no, la Mukina è finita. Ci penso io, va. Ecco Mukina! Già la usavo, ma adesso di più. Che tutto questo allarmismo, questo allarmismo che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Voglio morire. E la gente... Già lo usavo, ma adesso di più. Mascherina no. La mascherina no. Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. Già la usavo. Insomma, mangiate le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Prince. Via! No! Noi, Alessandro I. David, Natania, da Casa Parenzo. che cazzo vuol dire che si può uscire, andare a trombare con i partner delle relazioni stabili? Quelle le abbiamo già in casa. Noi vogliamo andare a trombare con le amanti, con chi cazzo ci pare. Sì, comunque anch'io mi sono ritrovato a scopare durante la quarantena dopo 2 mesi di castità e non sono riuscito a venire. Cioè, ma che cazzo di vita è questa? Capito? Ma io mi marito. Dipende dal tempo che hai avuto e da problemi tuoi, magari, non lo so, la prostata. Certo. Non è colpa del non è colpa né del virus. Se ti sei messo lì, no, a scopare, certo, non sei venuto, sono cazzi tuoi. Sto diventando cieco. Luciani, sto diventando cieco. Questo è un luogo comune. Luogo comune, luogo comune. Posso dire la frase intera che ha pronunciato Renzi? Poi va bene, anche noi semplifichiamo tantissimo perché tagliamo i pezzi, eccetera, eccetera. La frase intera pronunciata da Renzi è esattamente questa: il coronavirus è una bestia terribile che ha fatto 30.000 morti nel modo più vigliacco, perché ha impedito ai nostri anziani di stringere la mano nell'ultimo momento ai propri figli e ai propri familiari. Il coronavirus è un nemico vigliacco. Noi però non siamo dalla parte del coronavirus quando diciamo di riaprire. Pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più e che, se avesse potuto parlare, ci avrebbe detto: ripartite anche per noi, avendo fatto nella vita in tutti i momenti un'occasione di sacrificio e di fatica. Ora io dico, va benissimo dare dello sciacallo a Renzi, va benissimo, per carità, perché ovviamente poi vengono estrapolate le frasi, lo facciamo sempre anche noi in questa disgraziata trasmissione, lo abbiamo fatto anche prima. Però posso dirti una cosa, il riferimento che fa alla popolazione, la gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più e soprattutto che ha fatto della vita in tutti i momenti un'occasione di sacrificio e di fatica, è giusto. La politica parla, io leggo dei soloni che adesso danno a Renzi dello sciacallo, eccetera, eccetera. Mi aspetto anche il mio amico Telese, per signor Telese, anti-renziano di complemento. Perché lo chiami signor, sì, Telese, signor Telese, che sicuramente non è questione di essere anti-renziano, sì, perché lì o meno, però, sicuramente perché direbbe vergogna, vergogna Renzi, sciacallo, dillo, Telese lo so, scatenato. Luca, che se sei in ascolto, Telese, dillo, Telese è scatenato, dillo, certo, dillo, ma non è quello, dillo che è uno è che sciacallo, un abbi improprio, il coraggio di dirlo, no, ma è giusto. Giusto che il politico si esprime in questo modo, improprio. È giusto. Siete dei calunniatori. Tu, Telese, ma e altre persone. Ma io non ho detto niente, tu sei un calunniatore. Io sono un moderato in questo. No, sono un moderato, un paragone improprio. Alessandro da Firenze, intanto. Alessandro da Firenze. Sì, ciao Cusani, buonasera a tutti. No, volevo dire una cosa che magari potrebbe sembrare stupidaggine retorica, ma secondo me con questo coronavirus il pianeta è ritornato meraviglioso. Il pianeta, l'aria, c'è un cielo meraviglioso. Sì, a me fa schifo, a me fa orrore questa roba qua. Chiunque parli di questa roba qua fa orrore. No, lo ha detto Red Rodin l'altro giorno, il pianeta è più pulito, i laghi sono più limpidi, si può mantenere l'ambiente pulito e tornare alla normalità. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma che me ne frega dei cigni se manco li posso andare a vedere, tra l'altro? Che me ne frega a me quello di tutte queste negativo puttanate l'altro quello giorno negativo, ma no, ma non è che l'aspetto negativo è l'unico, no, non c'è l'aspetto positivo ancora, sta follia non c'è, non esiste, è una cazzata tremenda questa roba qua che dite voi, una puttanata. L'altro giorno Fabio Fazio, io non voglio dare addosso a Fabio Fazio perché non me ne frega assolutamente nulla, ha scritto un articolo per un giornale letto credo dagli italiani, per un sito letto soprattutto dagli italiani che stanno in America, con un testo che ha dell'incredibile, con delle parole che sono incredibili, vabbè, delle parole retoriche sul fatto che il mondo è tutto uguale, oggi che tutto il mondo conosce lo stesso disagio, la stessa angoscia, lo stesso stato d'animo, abbiamo però l'occasione come mai prima d'ora di poterci sentire uniti, delle parole inutili, totalmente retoriche, vuote, cioè. Inutile, no, ma la cosa più grave è questa, senti, a parte sui confini, no, il virus non ha confini, grazie al cazzo che non ha confini, i confini sono convenzioni, ridicoli muri che si erigono, certo, e che verranno abbattuti prima o poi dalla storia. Costruiamo confini ignorando l'unico confine insopprimibile, quello dei nostri limiti di uomini. Abbiamo trasferito la categoria dell'onnipotenza a noi stessi.

scusami, no, Maurizio, ma ha no, semplicemente, ma scusate, ma perché... non con cattiveria, mettetegli un tubo di gas nel culo. Sì, ma scusami un attimo, ma Maurizio, solo perché ti ha fatto notare che avevi parcheggiato la macchina dove non potevi, tutto qua, perché no, non c'era il cartellino. Lei l'ha parcheggiata di fianco alla mia, non avete capito? Allora, e poi si è incazzata perché non ha visto il tesserino della degli invalidi. No, perché io stavo andando via. Vabbè, ragazzi, giustamente, ragazzi, io stavo facendo retromarcia. Poi giustamente, ma non è la polizia questa qua, poi che vuole, pure ha ragione, no, polizia. Bravo Cruciani, questa si è presa la briga di dirmi, di farmi notare che io ero su un'area per invalidi civili. Ma allora mica io la polizia. Il mio tesserino gliel'ho fatto vedere e gli ho detto: mi scusi, guardi che io sono un'invalida civile anch'io. E questa insisteva, questa rompicoglioni insisteva. Vabbè, ma insomma, com'è finita la storia? Ma suo marito invece di fare i pompini gli faceva i rigatoni. Ma scusa, com'è finita la storia, Maurizio? Come si fa a parlare in questo modo? Ma perché deve parlare così di un'adorabile signora milanese? Ma guarda, è incredibile. Ma com'è finita sta storia che dici che sono arrivati i carabinieri? Non ho capito, Maurizio. Ma no, poi a un certo punto arrivano 8 moto carabinieri, è arrivato e mi ha detto: Maurizio, ma cosa succede? E succede che questa qui mi attacca mentre io ho già messo in moto la macchina e sto facendo retromarcia per andare via. Io sono sul posto dei disabili, ho un tesserino di invalidità, ma pure le tette, a un certo punto pure le tette, ho avuto una leucemia, ma pure le tette hai tirato fuori a un certo punto, no, pure le tette hai tirato fuori, dai. Ma attenzione, attenzione, ho tirato fuori dai carceri, non hanno tirato fuori quelli del 41 bis che hanno ammazzato un sacco di gente, ma e hanno c'entra, ammazzato un sacco di carabinieri, saranno meglio le mie tette oppure quelli che hanno tirato fuori dai carceri? Ma, sì, ma cosa vuol dire, scusa, ma che non è un paragone che si può fare però questo, che c'entra? Succhiamele troia, succhiamele, così gli hai detto, sei tornata la Maurizia Paradiso di un tempo, all'attacco per strada contro la gente. Ma scusa, capezzoli alti e diamo senso al buon senso, che cazzo di galeazzo. Vabbè, Mori, Viva Cruciani, prima o poi ti farò un pompino. No, vabbè, adesso questo non esageriamo. Bello, questo è un annuncio interessante a questo punto. Va ciao, bene, Maurizia, va bene. Ciao, abbraccio. Ciao. Arrivederci. Allora, senti, scusa, io non voglio contestare quello che fate in questa trasmissione, io manco la conoscevo in realtà. Io ti ho chiamato perché la tua trasmissione, io ieri l'ho sentita per 2 ore, mi avete fatto letteralmente cagare. È normale. Son, you gotta believe. 'Cause when you're old and you're dying, it's so fun for you. You gotta live while you can till your days are over. Comunque ragazzi, se riuscite manco a stare 2 mesi senza trombà, è un male, ma veramente, ma veramente male. La volete una perla? Fatevi rasponi, ma non ci rompete coglioni, vai. Ma Grugiani, io che ti ascolto tutte le sere da 16 anni in questa parte, posso considerarti un affetto stabile, così da venirti a trovare? Allora, questa cosa ti farà contento, caro David, ti farà molto contento. Intanto lo scontro tra le regioni e il governo si fa molto aspro, ti piace questa cosa qua, si fa molto aspro questo scontro, addirittura c'è la minaccia di intervenire contro la decisione della Calabria, cioè contro la decisione della Calabria di riaprire i bar. Se ti piace lo scontro pure, è pazzesco, distruttore del paese. Fra un po' ti faccio sentire una cosa della Meloni che ti farà godere, una cosa della Meloni detta oggi alla Camera. Enrico da Varese intanto, Enrico vai. Ciao, io volevo dire una cosa, non capisco perché Cruciani devi sempre difendere tipo Renzi quando dice quelle cazzate. Io difendo sempre, di sempre, non ho detto sempre. In questo caso, hai difeso anche Feltri quando ha detto. Ho difeso il principio di Feltri di dire quello che vuole e le cose dette su Feltri dopo. Su Feltri hai detto anche che. Che cosa ho detto? Essendo una trasmissione televisiva si fa un po' di show. Beh, ho detto che è teatro, è puro teatro. È quando teatro, vai da Giordano. Ma è un giornalista, non è un attore di teatro. Cioè, le parole che dice hanno un peso. Sì, va bene, hanno un peso, va bene. Tu la pensi così, io la penso in un altro modo. E Renzi, che cosa? Spiegami, Renzi. Che... Beh, Renzi ha parlato dei morti. Ma che cosa volete? Un linguaggio tutto uguale? Volete l'appiattimento del linguaggio? No, non tutti non che linguaggio tutto uguale, dai. Ma che il concetto venga espresso in maniera diversa. E chi lo decide? Tu lo decidi come deve essere espresso il concetto? Ma sei un politico, cioè, dai anche l'esempio. Allora lo decidi. I morti di Bergamo, di Brescia, ma lui che cazzo ne sa dei morti di Bergamo, di Brescia, no, che vogliono riaprire? Sa che sono morti, sa che sono morti. Faceva un riferimento all'operosità e alla voglia di lavorare delle persone del bergamasco. Poteva fermarsi lì, secondo me. Può darsi che poteva fermarsi lì, però ragazzi, volete un linguaggio tutto uguale, no, tutto no, uguale, no, tutto no, uguale. No, volete tutto uguale, tutto uguale. Non riconoscerlo è incredibile. Chi rappresenti, cosa dici? Enrico, ma io, per carità, cioè, io fosse un'altra Enrico, persona Enrico, che conto al bar. Enrico, bene, ma io per carità, io sono. È una tua opinione e qui la ospitiamo tranquillamente senza problemi. Cioè, la rispetto la tua opinione. Io penso che oggi l'accanimento che c'è, ovviamente agli italiani non frega un cazzo, è di una parte della politica e dell'opinione pubblica nei confronti di Renzi, che ha detto una cosa, che ha fatto, ha pronunciato una frase, che la ripeto, vogliamo risentirla un attimo? Cioè, risentiamola così togliamo. Togliamo sì, la cosa, risentiamolo un secondo, adesso la recuperiamo. Renzi oggi al Senato che ha detto una frase che fa riferimento ai morti di Bergamo e di Brescia. Cioè... Il coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi non siamo dalla parte del coronavirus quando diciamo di riaprire, pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più, che ci avrebbe detto, se avesse potuto parlare, ripartite anche per noi. Poi in realtà c'era un piccolo finale in cui diceva, in cui parlava dell'operosità di quelli di Bergamo e di Brescia. Ragazzi, a me non mi pare così scandalosa. È la frase di un politico, qualcuno si è offeso, può darsi parenti delle vittime, ma è chiaro che chiami un parente delle vittime, ha sentito quello che ha detto Renzi? Ah, vergogna, eccetera, eccetera. È chiaro, che ti devo dire? Senti cosa ha detto la Meloni, Davide, ci sei? Davide, certo, ci sei o certo. No? Senti. Certo. Pensate come state messi, siete deputati di democrazia. Pensate come siete messi. Vedete? Colleghi, cioè, aspetta, risenti, risentiamo. Pensate come pensate siete come state messi, siete di democrazia. Pensate come siete messi. Allora, vedete? Pensate come siete colleghi. Messi. Pensate come siete messi se sono io a dovervi dare lezioni di democrazia. Cioè, pensate appunto, come siete messi. Appunto, pensate esatto, come siete messi. L'amica di Orban, certo, esatto. Brava. Cosa scelta, il gusto del paradosso, c'ha. Brava. Adesso, ragazzi, passiamo da Maurizio Paradiso a Edward Luttwak. Telefonata con gli Stati Uniti col professor Luttwak, il grandissimo professor Luttwak, che l'altro giorno ha detto contagio. Bisogna contagiarsi per uscire fuori da questa cosa. Tanto il virus ormai non lo fermiamo più. Ti ricordi quel sulle fake news? Ti ricordi quel sondaggino di SVG sulle sì, fake news? Ti ricordi? Fake il 50% sulle convinzioni pensa degli che... italiani. Chiamiamo il prof. Hello? Professore, come va lì negli Stati Uniti la situazione? Beh, sai, qui non abbiamo mai avuto, non ci hanno mai chiusi in casa. Sì. Andare in bicicletta, sì. A visitare un parco e così via. Hanno chiuso le scuole, sì. Che è nel loro potere amministrativo, sì. Ma non avevano potere costituzionale legale per dirmi a me di non uscire da casa. Perché lei dice, professore, a questo punto ho sentito, è meglio il contagio. Questa è una questione di analisi fatta da ogni virologo serio del mondo, cioè che questo virus non si ferma, sì. Che il vaccino viene forse domani mattina, ma forse mai, sì. Quindi l'unica cosa è di assorbire il virus, sì. Però assorbirlo a una velocità tale che non eccede la capacità degli ospedali di giusto, ricoverare giusto. Il piccolissimo percento che hanno bisogno di aiuto in ospedale. Giusto. I paesi dove si sono mangiati i soldi e non hanno messo le necessarie cose negli ospedali, in questi paesi naturalmente l'epidemia deve essere molto controllata. L'Italia dice lei, l'Italia. Non so, io so che in Germania e che non si sono mangiati i soldi, avevano non si... 5 volte più respiratori, sì, così. Avevano più posti, tutti lo sanno ormai, sì. Hanno speso gli stessi soldi, hanno 5 volte ma più, ma sì, la realtà è questa, che hanno molto meno amministratori, hanno molto meno nipotini, eccetera. Qui per esempio in America, che io sappia, nessuna persona negli Stati Uniti è andato in un ospedale e l'hanno messo a morire in un corridoio perché non avevano un respiratore, che io sappia neanche uno. Lo stanno cercando dovunque i giornalisti per ovvie ragioni, non l'hanno trovato. Ecco, ma in Germania, scusami, professore, ma fammi sai, nessun problema da nessuna parte. Ecco, ma perché in Lombardia, che è la regione più produttiva, sì, una delle regioni più produttive del mondo, sì, piena di soldi, sì, c'è stato questo problema. Scusa professore, ma in Italia facciamo molti decreti, no? DPCM qui li chiamano, facciamo molte leggi, sì, esatto, di continuo. Perché, capisci, devo dire che dal presidente in giù c'è una grande antipatia per la democrazia. Addirittura. Appena possibile, chiunque viene eletto democraticamente viene messo di lato e si mette un Conte, si mette un Monti, si mette chiunque che non è stato eletto, perché c'è antipatia per la democrazia. Dov'è la legge passata da un'assemblea popolare del popolo italiano, sì, che permette all'autorità locale di dare una multa a qualcuno che esce di casa per andare al giardino? Nessuno l'ha deciso. Dov'è questa legge? Si chiama la regola della legge. Dunque in Italia la democrazia è sospesa, secondo lei? Un po' sospesa? Non è democrazia, è legge che è sospesa. Professore, in Italia c'è il 50% di italiani, secondo un sondaggio, che crede che il virus sia stato prodotto in laboratorio. Prodotto in laboratorio. Il virus quasi, sì, 99,999% è sfuggito, non prodotto, sfuggito da un laboratorio di Wuhan. Cioè, 2 giorni fa. La gente che hanno creato quel laboratorio hanno messo un articolo dettagliato nel Le Monde in Francia, aprile 27, dettagliatissimo, fatto da scienziati cinesi. E chi lo stava trattando? Francesi. Chi lo stava trattando? L'equipaggiamento francese è perfetto, i scienziati sono grandi, tutto benissimo. L'unica cosa è che invece di avere un studente o 2 studenti per ricercatore, i cinesi ne hanno messo 20. È l'estrema disciplina richiesta in un laboratorio di virus di questo tipo. Era impossibile con 20 studenti per ricercatore. Quando i francesi partner si sono lamentati, i cinesi, con la nuova arroganza cinese, la nuovissima arroganza cinese, pecore che si atteggiano a lupi, hanno mandato in quel paese. Questo è un laboratorio creato dal governo francese per il governo cinese. Ho capito, dunque la colpa è dei cinesi. 4 a Wuhan, e loro l'hanno gestito in una maniera così disordinata che mettevano, per esempio, nel bacino del rubinetto, buttavano via i virus che andavano nell'acqua. Ma scusi, questa gente sono diventati arroganti, sono ancora molto indietro, però fanno gli arroganti. Ma va incriminata? Questo è il virus dell'arroganza. Ma va incriminata la Cina? Gli vanno chiesti i soldi? Va processata? Assolutamente, perché ricordati, l'India è un paese che ha qualche abitante, pure lei, sì, ci sono diciamo 1 miliardo posti, sì, in India. Sì, sì. L'India non è famosissima per l'igiene, non è famosissima per... ma da quando mai ci è venuta un'epidemia dall'India? Questo abbiamo vero. Avuto SARS dalla Cina, abbiamo avuto l'influenza aviana dalla Cina e adesso questo SARS 2, cosiddetto del virus COVID. E Xi Jinping in persona ha preso controllo della situazione il 7 gennaio. È stato lui a decidere di sopprimere i scienziati e di andare avanti col famoso evento dei 40.000. Dunque sono criminali, sono dei criminali. Dunque sono dei criminali. Possiamo... No, non criminali, hanno commesso un danno, devono chiedere scusa invece di fargli arroganti, chiedere scusa e poi devono dare compenso perlomeno ai paesi meno ricchi. In tutto il mondo gli ambasciatori cinesi sono respinti, buttati fuori, maltrattati e espulsi. Solo in Italia c'è un Shusha, lei al ministero che lo trattano, siamo in Italia, il governo italiano, perlomeno il ministro, sì, parla bene dei cinesi. In tutto il resto del mondo, guardo i giornali, da Parigi a Canberra, Papua New Guinea e così via. Va bene, professore, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci, grazie, bravo. Grazie, shalom, grazie, ciao, shalom, ciao, shalom, shalom. Amo quanto mi ami, dillo a tutto il mondo, tutta la vita. Che voglia di cazzo, mamma mia. It's Friday night, what's going on tonight? I'll see her later on tonight. Sta fase 2, stu decreto, non ci capito manco cazzo, non ci capito a chi posso a salutare. Non ci capite se mi posso fare una chiavata o no? Non ci capite niente? Ho potuto manzuppare un biscotto o no? Non si è capito. Mettiti Di Maio! Conte è un massone satanista! Viene dalla mafia di San Gallo! I cardinali del Vaticano venduti! Satanista! È vichingo! Mettiti! Conte! Satanista massone! Mettiti! Di Maio, mettiti! Di Maio, mettiti! Don't see bad, rolling in my Cadillac. Self-control, knowing right from wrong is what I lack. Top down, see bad. Ehi! E pensate come state messi se vi fate le lezioni di democrazia! Pensate come siete messi! Era la Meloni, caro Parenzo, era la Meloni, la signora Meloni. Posso leggerti una cosa? La petizione, sì, certo, che intendo lanciare e che spero venga accolta con grande entusiasmo da coloro i quali credono nel valore universale della cultura, è volta a suturare una profonda ferita metaforica nel mondo del giornalismo e dell'informazione. Concretamente chiedo che un qualsiasi istituto universitario italiano che si occupa di scienze della comunicazione prende in considerazione il lavoro e la preparazione formatasi grazie alla ultraventennale militanza nel settore del giornalista signor Parenzo David, nato a Padova il 14 febbraio 1976. No, non ho capito cos'è questa cosa. Aspetta, non ho capito, e pertanto cos'è, che gli venga conferita una laurea ad honorem. È una petizione su change.org. Le motivazioni per le quali chiede il conferimento di questo, a mio parere, meritato titolo sono principalmente le motivazioni per le quali chiede il conferimento di questo, a mio parere, meritato titolo sono principalmente riassumibili nella sua innegabile capacità di una lettura originale e brillante dei fatti di cronaca, mai retorica e quando occorre ironica e pungente, sempre senza mai scadere nella volgarità e o nel superficiale commento fine a se stesso. Purtroppo l'informazione italiana contemporanea, minata dal funesto fenomeno delle fake news e dalla incontrollata nascita di presunte testate giornalistiche online, ha bisogno di riappropriarsi di quel rigore, di quella sacralità, bellissimo, che serve per riacquistare credibilità e riaccendere negli italiani l'entusiasmo di arricchimento culturale attingendo informazioni veritiere da un giornalismo serio e competente. Il signor Parenzo David risponde a tutte queste caratteristiche fondamentali per distinguersi nel campo della comunicazione. Bellissimo. Propongono una laurea honoris causa. Non so se sia una presa per bellissimo il culo, potrebbe anche darsi. No, mi sono arrivate diverse segnalazioni da diversi atenei, quindi grazie. Ma tanto. Quali atenei? Parenzo dice sempre cose intelligenti, lo attaccano, vedi, sempre, ma dice sempre cose molto intelligenti. Vedi, questo è il professor. Vedi, grazie professor. Allora, Francesco da Sassari, vai. Francesco da Sassari, vai. Dimmi. Pronto? Dimmi. Ciao a tutti. Ascolta, alla fine c'ha ragione Hotel, ma oggi la puntata volgeva a favore del signor Davide Parenzo. Ma alla fine lui offende, tipo Feltro, offende queste persone qua, invece di dire a quel puttanone di quella trans del cazzo, che da cui tu non hai preso le distanze, e quindi sicuramente vorrei fartelo veramente succhiare. Stai calmo. Io non ho capito cosa c'entra. A parte puttanone, trans del cazzo, a Maurizio Paradiso, non ti devi permettere, Francesco. Non ti devi permettere. Ma hai capito cosa ha detto a quel alla signora, se fossi stato il figlio, se io fossi stato vabbè, il figlio. Vabbè, ma anche Maurizio Paradiso, che cosa ti aspetti dalla signora Paradiso? Cosa ti aspetti dalla signora Paradiso? Ma perché non prendi le distanze e la mandi a fanculo? E Parenzo, invece di chiamare quella deliziosa vecchietta, sembra quasi quasi, guarda, Parenzo è su, di solito ha dei valori morali abbastanza elevati, mi aspettavo che la mandasse a fare in culo. Si aspettava un sussulto da te. Ragione o ferma, ma certo, ma c'era una, sono stato, lei ha ragione, caro ascoltatore, sono stato travolto dalla volgarità della signora Paradiso, ma lei ha ragione, lei ha ragione. Lei ha ragione. Senti, guarda, lei ha senti, senti che marcia sono indietro. Stato che fa. Senti che marcia indietro. Dalla volgarità della signora Paradiso, la adorabile vecchietta andava di, va difesa, ma l'ho detto però lì. Sì, ma vedo come Parenzo, come le sedi. Ma come ti permetti? Come ti permetti di dire al, a Maurizio Paradiso puttanone? Come ti permetti? Come cosa ti è, cosa è? Non lo so, cosa ha detto che ti voleva fare un bambino, cosa ha detto che era. Ma cosa vuol dire? Ma quella, ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma perché non prendi posizione, difendi anche tu i più deboli. La signora non era la polizia, quindi noi quando vediamo qualcuno che è bullizzato non lo possiamo difendere. Ma, che ma cosa che c'entra bullizzato? Cosa ma c'entra? Ma anche se una persona intelligentissima, tu ma adesso io ti chiamo alla Paradiso, ti faccio attaccare dalla Paradiso, ti faccio attaccare. È rischiosetto, ma che cazzo me ne frega? È rischiosetto, ti posso dire che è rischiosetto. È rischioso, dice, rischioso, diretta, è rischioso, rischiosetto. È rischioso, cioè, devono sfumare. È rischioso, te lo dico io che conosco la materia. Io dico che è rischiosetto. Allora, signore, io vi rispetto a entrambi. Tu dici che mettere in collegamento adesso la Paradiso con Francesco da Sassari non è il caso, Parenzo. È rischiosetto, in diretta è rischiosetto, è rischiosetto. Cioè, conoscendo l'uno, conoscendo, scusami, conoscendo il soggetto Paradiso, che non è facilmente controllabile nel suo eloquio, e conoscendo l'amico sardo, che anche lui mi sembra piuttosto sanguigno, mi pare un match pericoloso. Si può fare se il signor La Corte, se il professor La Corte, il dottor La Corte ha un cursore dell'audio che è talmente veloce nell'abbassarlo nei momenti più critici. Se però per caso, qualora il dottor La Corte dovesse dimenticarsi di abbassare l'audio, la tragedia sarebbe immane, io credo. Questo per quello che conosco. Caro dottor Parenzo, se questo però si può provare, si può provare, si può provare. Caro Parenzo, se questo era il tuo, ultimo ore, dal tuo bel terrazzo, io te ti stimo. Ma cosa c'entra il terrazzo adesso che sono in casa chiuso, che fa freddo? Cosa c'entra il terrazzo? Ho detto che fare uno scontro tra lei, che non mi sembra un professore dell'Accademia della Crusca, e quell'altra quell'altra matta della signora Paradiso, mi pare rischiosetto, visto il linguaggio che spesso viene utilizzato. Non è che io vi considero intelligenti, ma non è che posso spingermi a parlare con voi della teoria delle stringhe, se mi fai passare la battuta. Ma che cos'è la teoria delle stringhe? Io capisco che ora tu stai lì sorseggiando, magari, che ne so. Ma non è vero, ma non sto sorseggiando nulla in questo momento. No, in questo momento non sto sorseggiando. Mi è stato chiesto, un'opinione. Ho detto, quella signora dove va? Allora, tu hai detto puttanone. Allora, aspetta un attimo, tu hai detto puttanone. Però alla regia, aspetta un attimo, aspetta. Aspetta, io non parlo, io spreco neanche piano. No, glielo devi dire in faccia, glielo devi dire in faccia. Non dire un cazzo a nessuno. No, ma diglielo in faccia, Ma per favore, ma non mi diglielo in faccia, glielo devi dire in faccia. Parlo, no, io spero che il figlio di quella signora, il nipote, il genero, qualcuno vada e glielo dica in faccia veramente. Ma io non so manco chi sia. E la prossima volta diglielo in faccia, una bella sanzione. Giuseppe, ma vuoi veramente fartelo succhiare allora? No, ma che c'entra? Ma chi se ne frega? A te piacciono un po' queste cose. Ma non dire stronzate, Francesco, non dire stronzate. Sotto sotto non ti piace. Vabbè, vaffanculo, hai rotto i coglioni. Ciao, ciao, ciao. Ciao Parenzo, sembri un panda, ti amo! Allora ragazzi, come sapete, oggi la Chiesa ha fatto un grande gesto. Finalmente posso dire una cosa positiva sulla Chiesa. La Chiesa ha aiutato le transessuali di Tor Vaiani, che è un gruppo di transessuali. Sono state accolte dal prete della zona. Sono in difficoltà economica, perché non ci sono solamente i bar, i tabaccai, i parrucchieri, eccetera eccetera. C'è anche il mondo della prostituzione, lo vogliamo dire? E tra i transessuali, alcuni transessuali sono stati aiutati direttamente da quel famoso, vi ricordate? Da quel famoso, com'è che? Elemosiniere del Papa, che andò a rimettere la luce. Meglio aiutare le prostitute, bel gesto, piuttosto che andare a mettere la luce a delle persone che non la pagano, a degli occupanti, a degli illegali. chiaro? Abbiamo in collegamento una delle transessuali di Trobaianica, si chiama Minerva, che è stata aiutata dalla Chiesa. Non so che tipo di aiuto abbia chiesto, si chiama comunque Minerva. Buonasera. Buonasera. Come stai, Minerva? Bene. Dimmi un po', tu da quant'è che fai la transessuale, la prostituta, insomma? Scusa, mi hanno chiamato per parlare di quello o di un'altra cosa? No, voglio capire innanzitutto da quant'è che fai la prostituta, poi parliamo della questione della Chiesa e dell'aiuto che ti hanno dato. Ne parliamo subito, però volevo sapere da quanto tempo fai la prostituta. C'era un po' di tempo. Un po' di tempo così? Un po' quanto? 10 anni, 3 anni, 4 anni, 5? Lo puoi dire tranquillamente. Che c'entra quello, scusa? No, ma c'entra, amica mia. C'entra. Ma perché è così agitata? Non devi essere agitata, siamo qui per aiutarti. No, non sono eccitante, sono tranquilla, sino che non lo so. Ma siamo qui per aiutarti. È come chiedere a un notaio, scusi, da quanto tempo fa il notaio? Da quando ha fatto l'esame di Stato? Lei è uguale, da quanto tempo esercita questo mestiere? Non è mica una domanda per metterti. Più di 20 anni. Come, scusami? Più di 20 anni. Ah, più di 20 anni addirittura. Dunque hai la tua età, avrai 40 anni, una cosa del genere. L'ho mia età. Sì, ma non è un problema, cioè non è un interrogatorio della polizia questo qua, non è la Digos, non è la Digos. Brava, sorridi, tranquilla, solare. Tranquilla. Ha fatto qualche corso, si è iscritta a qualche albo, l'albo ha fatto qualche corso di specializzazione. È il corso della vita. È il corso della vita, non c'è dubbio. Senti, amica mia, non ho capito. Tu in questo momento immagino che sei in grande difficoltà economica, no? Perché tutte le entrate. Come quasi tutti le trans, no? Ecco. Che hanno chiesto un po' di aiuta alla Chiesa e loro non ci hanno dato un'aiuta alimentaria. Che cosa vi hanno dato? Tu sei brasiliana, che sei? No, tesoro, io sono sudamericana peruana. Peruviana, benissimo, peruviana. Allora, voi che cosa avete fatto? Vi hanno pagato un po' di affitto? Vi hanno semplicemente dato da mangiare la Chiesa? Cosa hanno fatto questi signori, siano benedetti, questi signori preti? No, qui è il prete Don Andrea. Sì. Abbiamo chiesto aiuta una in una, piano piano mo si stava andando. Sì. E lui non si stava dando vivere, no, per mangiare. Cioè vi hanno dato semplicemente della roba da mangiare? Certo. No, perché c'è stato anche un intervento diretto del Papa attraverso l'elemosiniere. Tu lo conosci il signore elemosiniere del Papa, o no? Certo, però questa cosa ancora non ci hanno detto niente a non noi. Non ti preoccupare, arriverà. Sì, speriamo che faccia meglio, perché pare che poi le bollette non le abbia pagate lì, il signor lemosiniere del Papa, lì dove andava. Speriamo che con voi faccia meglio. Quasi tutti che abbiamo stato lavorando in questo periodo dell'emergenza sanitaria. Sì, ma tu non stai lavorando, niente. Non si lavora. Sei sicura? Zero, non c'è nessuno che ti chiede, eccetera, zero. Ma come si fa? Qualcuno... Se tu mi puoi aiutarmi, aiuti. No, ho capito. No, voglio dire, qualcuno sarà venuto da te comunque, Minerva, no? No, tesoro, perché questa uno non sa come viene qualcuno di fuori. Io sto qua chiuso in casa. Preferisco non ricevere nessuno. Sì. E star tranquilla e trattando di uscire, chiedere a una chiesa che mi dia algo da mangiare e seguir vivendo piano piano. Cioè, tu preferisci essere sicura di non prenderti il coronavirus in questo momento piuttosto che magari fare 2-3 clienti. Credo che ho bisogno di tenere prima bene la mia salute, anche la salute di un altro. Senti, ma possiamo dare qualche così anche un'idea alle persone, no? Di come sei fatta tu, eccetera. Il tuo gingillo, che è l'attrezzo del tuo lavoro, diciamo la colonna portante del tuo lavoro. Quanto è lungo il tuo gingillo, il tuo pisello? Mamma mia. Vabbè, ma è normale, cioè uno ha i propri strumenti di lavoro. Io ho la voce, è normale che sia così. Noi due abbiamo la voce, invece Minerva ha il suo pisello, il suo cazzo. Scusa tesoro, però tu che fai? Tu fai il uomo o fai la gnocca? Io faccio di solito faccio l'uomo. Voglio capire da te il tuo gingillo, quanti centimetri è il tuo gingillo, Minerva? Ma che bella conversazione. Sufficiente con dirti che è bello e funzionante. Cioè quant'è più o meno? Una ventina? Per quello che viene con me, sempre mi ripete. Sì, ma ho capito, cioè sempre mi ripete significa? Disarmante. Sempre mi ripete? Cioè sempre valido. No, non è tanto sempre valido, se mi mangi una volta, questo potaggio si deve mangiare più Più di una volta. Ho capito, torna sicuramente qualcuno. Se ti assaggiano, la gente torna sicuramente. Comunque, sì, leggo cosa qui. Cosa pensa lei di Salvini, ad esempio? Di Salvini, questo è interessante. Cosa pensa, sì, signora Peruvia. Scusa, tesoro, però di politica io non parlo. Non parli di politica, è bello. Una cosa riservata. Come non parla di politica? Effettivamente, sì, non vuole. Cioè, dite delle porcherie pazzesche. Le ho chiesto cosa pensa di Salvini, di politica non parla. Ma che roba è? È incredibile, però. Scusi. Del signor Conte, che pensa lei? Del signor Conte, presidente del Consiglio, il signor Conte, dovrebbe darvi qualche aiuto, il signor Conte, anche alle prostitute, Minerva. Beh, su questo possiamo essere d'accordo. Il governo dovrebbe intervenire direttamente anche sulla questione della prostituzione, o no? Lo unico che te posso dire, no, è che guarda, hai tanti paesi d'Europa sì. che danno aiuta anche trans, solamente alla prostituzione, solamente a trans e a donna, sì. no? Perché la prostituzione non solamente non conta di trans, conta di tutti, tanto donna come. Sì, ma dovrebbero aiutarvi, diciamolo forte, certo. Cara amica peruviana, dovrebbero aiutare le prostitute, diciamolo, soprattutto quelle come te che hanno un 21x15, mi sembra di capire da qua, un bel giocattolo, 21x15, leggo dei tuoi annunci, soprattutto quelle attive e passive, io non so se sei più attiva o passiva, tu che cosa sei, più attiva o passiva, per esempio? Cioè, perché anche questo... Io sono il desiderio che venga a trovarmi. Sì, ma generalmente sei più attivo o più passiva, cioè in generale, amica mia, tanto per farlo sapere pure alla curia locale, al signor Kwasniewski. No, per farlo sapere anche al Vaticano, no? Se tu sei più attivo o passivo? Credo che stai mi dispiace. Più attivo o passiva in genere, che cosa sei? Buonanotte a tutti. Ciao, amica mia. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Anche fare la transessuale è una vita complicata, bisogna essere riservati, bisogna essere un po', no? Bisogna essere anche, no, un po' resti a parlare, bisogna essere riservati. Sì, mi ha colpito i transessuali questa cosa riservati. Ma perché siccome devono essere aiutati dal Vaticano, allora fanno i difficili, capito? Siccome devono essere aiutati dal Vaticano. Roba incredibile, ragazzi, incredibile. Giovanni da Milano, vai. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Io mi avevo ascoltato prima che ero in macchina per la questione dell'orso. Sì, dimmi. C'era da voi, non so se c'è ancora la signora Stani. No, non c'è, dimmi. Non c'è più, comunque volevo dire che voi facevate i cretini e io sono a favore dell'orso invece. E allora? Due Cruciani facevate i cretini per aizzare la signorina, però lei diceva delle cose sensate. Ma io non lo no. so se diceva delle cose sensate, so solo che ci sono due partiti, quelli che sono dalla parte, cioè sono quelli che dicono è giusto limitare la libertà dell'orso, che per motivi X è diventato pericoloso, e quelli che dicono lasciate l'orso in libertà. Io sono dalla parte dei primi, dunque non è che c'è uno che ha ragione sulla base delle leggi e gli altri che sono dei coglioni o sono antianimalisti o sono contro l'orso che lo vogliono ammazzare. Ci sono due partiti, quelli che dicono l'orso comunque deve essere un minimo controllato, deve essere messo in un recinto, deve essere controllato dagli esseri umani, nessuno lo vuole ammazzare, nessuno lo vuole fare fritto, nessuno lo vuole cucinare, e quelli che invece dicono, beh, questo M49 con Papillon, come cazzo si chiama, lasciatelo libero di fare quello che vuole. Io sono dalla parte degli altri, ma non sono un aguzzino. No, lo so, ma io poi le leggi, le cose, questo, quell'altro. Ma tu sei dalla parte dell'orso libero? Se vuoi l'orso libero, che magari si presenta a un certo punto davanti a casa tua, non a Milano, ma davanti a casa tua, e fa toc toc, e poi magari ti sbrana un ragazzino, un nipote, poi col cazzo che sei a favore dell'orso libero. Se c'è una sola possibilità che l'orso possa fare, certo, ma non ci sono, perché per fortuna c'è il contenimento, perché gli esseri umani si organizzano perché non accada. E in questo caso l'orso deve essere limitato, nessuno lo vuole ammazzare, certo, non ti preoccupare. Perché lo portano via, lo portano in Svizzera? Quelle sono altre cose. Come fanno a lasciarlo libero? Scusa, la cosa che mi fa impazzire è un'altra. Ma perché non possono lasciarlo libero? Se lo lasciano nei ma boschi, se vi piacciono gli orsi liberi, ma se vi piacciono gli orsi liberi, va bene, va benissimo. Infatti gli orsi di solito sono liberi. Non a Milano. Di solito molti sono liberi. Poi succedono dei casi come questo qua, che è abbastanza incontrollabile, come è inutile che vi rifaccio tutta la storia. È sceso in e a un certo, a un certo punto questo orso viene contenuto dagli esseri umani, che non sono degli aguzzini. Beh, cioè qualcuno magari ci sarà anche tra gli esseri umani di aguzzini e di assassino, ma nessuno lo vuole ammazzare. Non vogliamo la carne, nessuno, dell'orso stanotte. Contestavo, io ero rimasto una cosa pazzesca, più di un'ora fa. Vito da Pisa, Vito da Pisa. Ciao Giovanni, Vito da Pisa, vai Vito. Pronto, allora vado direttamente al dunque. Visto che ieri si parlava di format far partorire la moglie di Parenzo in diretta. Sì, credo che sia stato raggiunto un accordo. Credo che sia stato raggiunto un accordo tra la famiglia Parenzo Zevi e Mediaset. Vi do questo annuncio, però, poi approfondiremo lunedì. La chiusura di trasmissione, voglio darvi questo annuncio. So da fonti riservatissime, infatti stasera vado alla signora del Debbio. Fonti riservatissime che è stato raggiunto un accordo. No, ma ragazzi, c'è nessun accordo. Un accordo tra la famiglia Zevi Parenzo e il Mediaset per l'acquisto del pacchetto generale. Il pacchetto, no, ma quale pacchetto? Il pacchetto, pacchetto comparsate, da comparsate sempre col solito trucchetto, invidiamo uno, invidiamo l'altro. Ma in occasione dei prossimi mesi ci sarà un pacchetto, un pacchetto. Ma Vito, allora pacchetto in testa, cioè, dimmi, allora. Però noi popolo della Zanzara stiamo facendo un sondaggio per decidere il nome della figlia di Parenzo. Questo è interessante, questo è molto interessante. Questo è molto credo che manterrò la riservatezza perché su questo argomento. Questo è molto interessante. Qual è il primo? Il primo qual è che devo chiudere? Il primo qual è? Attualmente abbiamo Efe al 44.1%. Abbiamo Efe, fermi tutti. Efe, il primo voto, il primo nome preferito dal popolo della Zanzara. Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Se non mi sentite, datemi un segnale che capisco che c'è qualcosa che non va nella nostra diretta streaming. Benissimo, mi state sentendo.